si vuole veramente, si è voluto far intendere che praticamente il riduction deve più essere visto come due entità separate in cui si ottimizza l'involucro da un lato e l'impianto dall'altro, ma dove si fa un percorso unico, tant'è che io all'ingegnere a cui mi rivolgo, sono ingegnere edili, anche insegnando impianti e fisica tecnica, diciamo, dell'edificio, naturalmente non cerco di educarli a diventare dei professionisti degli impianti, perché loro vogliono progettare l'edificio, però fargli capire che oggi progettare un edificio senza concepire un impianto complessivamente presente che abbia poi quella valenza energetica necessaria, praticamente è un percorso che rischia di non essere, diciamo, adeguato. Allora, comincio a sottolineare dei dati, probabilmente, ripeto, ve l'avranno già detti, ma sono importanti, primo per far capire quanto il settore dell'edilizia sia trainante in termini energetici a livello nazionale, ma anche europeo, perché questi sono percentuali che si adattano bene all'Europa, dove che vedono praticamente il settore dell'edilizia e del terziario, cioè residenziale e terziario, come l'elemento che caratterizza il maggior consumo energetico a livello nazionale, seppure, come vedete, ripartito quasi in parti uguali con l'industria e i trasporti. Però è significativo altre due cose. Primo, purtroppo questo è al nostro discapito, vedere che il confronto, diciamo, dell'edilizia e il consumo energetico negli edifici del nostro paese è un consumo significativamente molto più alto di paesi che tradizionalmente, Svezia, Danimarca e Norvegia, per la loro collocazione dovrebbero probabilmente essere, diciamo, non certamente in questo rapporto con noi. Quindi questo fa capire quale sia stata la scarsa attenzione prestata all'edificio, diciamo, come involucro. Praticamente sì. E quanto è la quantità di consumo? Questi ora qui sono in megajoule, per portarlo in termini di kilowattora, così tradotto, basta dividere per 3,6 quel valore lì. Ci dica megajoule quant'è? C'è scritto, sono praticamente 1.164.442 megajoule, praticamente il consumo energetico di un edificio a livello, cioè sono veramente alti, ma poi 3,6 per passare in kilowattora, un kilowattora sono 3,6 megajoule. Sì, ma potremmo per certi aspetti vivere di rendita anche noi, perché potremmo in certi casi sfruttare meglio, ma ora vediamo che il discorso dell'edificio, diciamo, è un discorso su cui fare molta attenzione, ma quello poi che è abbastanza significativo, al di là di quei consumi assoluti, è anche questo trend che è del Ministero dello Sviluppo Economico, io l'ho preso sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, che sembra mostrare che mentre l'industria dei trasporti in questi ultimi anni sembrano avere un po' calmierato i loro consumi, l'edilizia, diciamo, gli usi civili dell'energia, come vedete, sono in forte crescita, un trend abbastanza di crescita, e questo, diciamo, si spiega facilmente praticamente, no, con un'immagine questa, che credo tutti conosciate, ma naturalmente quando la proietto per logica, per non incorrere nelle privacy, come cancello le cose, ma al di là della bruttura di una situazione di questo genere, che praticamente magari le sovrintendenze, se gli si pone un fotovoltaico sul tetto, fanno dei problemi, poi magari tollerano queste moto condensate in parete verticale, che sono veramente un obbrobrio, ma probabilmente le tollerano perché le montano anche loro lì alla sovrintendenza e quindi non possano fare diversamente. Praticamente sì, ma questa è una situazione, diciamo, che se si va soprattutto al sud, a Palermo, cioè tutte le strade di Palermo sono tappezzate di questi moto condensati, che ripeto, sono onestamente anche esteticamente brutte, ma danno la risposta a quel trend di prima, cioè perché ultimamente il settore del condizionamento dell'aria, fatto soprattutto da consumi elettrici, è fortemente cresciuto, diciamo, anche nell'edilizia residenziale, perché oggi se guardate i cantieri in ossere, praticamente si vede prima montate queste macchine di quanto non si veda praticamente montate all'infisso della finestra, perché, diciamo, ormai fra pochino non si rinuncerà più alla climatizzazione estiva nelle case, come nessuno comprerebbe più un'auto senza il climatizzatore, diciamo, per le logiche di comfort a cui ci abituiamo immediatamente e facilmente, però purtroppo con le ricadute che avete visto, per cui praticamente l'Università di Reggio Calabria, mi diceva un collega energy manager dell'università, ha avuto un picco dei consumi energetici il 15 d'agosto. Questo anche in maniera poco virtuosa, perché probabilmente la mancanza di un interruttore a tempo da un costo limitatissimo poteva consentire di non sprecare l'energia di condizionatori accesi in assenza di persone, perché il 15 d'agosto posso assicurare che all'università non ci lavora nessuno, insomma, o qualche pazzo scatenato, insomma, per cui, diciamo, quindi per cui questa è una dimostrazione anche come per certi aspetti certi consumi possono essere ragionevolmente anche contenuti facilmente anche con minimi interventi semplicemente, però il nostro paese dimostra che ormai i picchi di consumo ce l'ha destati, perché proprio l'uso smodato della climatizzazione. E poi la slide precedente era una slide che mostrava ancora l'incremento degli impianti, diciamo, autonomi, che la fanno ancora da padrone nel nostro paese, ma come vedete, diciamo, poi questo comporta necessariamente dei picchi di energia per quanto riguarda. Un altro aspetto sempre significativo su cui riflettere è questo, cioè qui praticamente, diciamo, l'Enea e la Finco, che è il settore della Confindustria e si occupa di costruzioni praticamente, ha inteso qualche anno fa fare un libro bianco sull'energia in cui evidenziava anche cercava di quantificare qual era il costo energetico nella costruzione di un immobile, e veniva quantificato in 5 tonnellate equivalenti di petrolio. Vedete in fondo nella nota, una tonnellata equivalente di petrolio sono circa, in termini legati al potere calorifico del combustibile, circa 11.628 kWh termici. Poi parallelamente diceva: quanto è il consumo di un appartamento per il solo riscaldamento? Quindi teniamo fuori l'acqua calda sanitaria, l'illuminazione, la climatizzazione estiva, eccetera. Per il solo riscaldamento, una tonnellata equivalente di petrolio all'anno. Allora, se consideriamo mediamente, loro hanno considerato 50 anni di vita utile, potrebbero sembrare troppi, mettiamolo pure 30, ci si accorge di una considerazione evidente, diciamo, che i costi di esercizio di un immobile pesano molto di più dei costi di costruzione. Allora, questo è significativo perché già indica una scala di priorità di cui tener conto, cioè se questa è la situazione, io che praticamente sono progetto, praticamente dovrei tendenzialmente privilegiare i costi di costruzione, diciamo ridurre i costi di esercizio rispetto ai costi di costruzione, perché come vedete poi il peso è rilevante, diciamo, nel tempo, e quindi andrebbe sicuramente dato. Certo, uno può subito obiettare, ma certo, però costruire meglio energeticamente l'edificio può significare un aumento dei costi, diciamo, in fase di vendita dell'immobile praticamente, ma sicuro che praticamente ormai è abbondantemente stimato anche da noi, che già dal 2004 con un'impresa di greve impianti facemmo un contratto di ricerca per la costruzione di edifici a basso consumo, e anche da degli studi del Politecnico di Milano costruire un edificio a basso consumo significa aumentare il costo di un edificio circa 7-8%, non di più, che viene tranquillamente poi recuperato dal fatto che praticamente, considerando che oggi la normativa consente di pagare praticamente quasi gli oneri sul netto anziché sul lordo, perché gli extracosti legati a queste logiche energetiche non vengono fatti pagare come una urbanizzazione, significa di fatto costruire più superficie utile, quindi vengono abbondantemente recuperati. Quindi sarebbe un percorso tranquillamente fattibile senza un grosso aggravio per una committenza, diciamo, in termini di costo. Ma ripeto, cioè, dovrebbe anche essere passato un messaggio che fa capire alla committenza che è meglio investire praticamente in un immobile in questi termini che mette soldi in botte o in qualche altra cosa, perché rende di più praticamente il costo energetico di un immobile ridotto rispetto, diciamo, a qualsiasi altro investimento che uno possa fare, perché, diciamo, è veramente significativo, e poi lo vediamo con qualche dato successivo. Un'altra cosa significativa su cui riflettere è questi sondati del 2003 dell'Enea. Fissate un attimino, ma vi faccio vedere la torta del 2007, è cambiata solo per la parte elettrica, che qui vedete 15,7, e guardate anche l'acqua calda sanitaria 9,7, guardiamo ora la divisione del 2007, vedete si è ridotta l'acqua calda sanitaria, è aumentato l'uso elettrico, ma niente è cambiato per il riscaldamento. Questa è una presentazione che secondo me anche qui molto significativa, perché dà subito una scala di priorità. Questo anche in funzione delle energie rinnovabili, diciamo, per certi aspetti. Perché? Perché intanto lascia intendere che se io voglio che l'energia rinnovabile diventi significativa nell'applicazione edilizia, devo prima necessariamente abbattere quel 68%, perché altrimenti, cioè, se vado ad aggredire col solare termico il 9% laggiù, nella misura del 50% mi riduce la norma, faccio qualcosa, ma faccio poco, perché in questo contesto ridurre del 4% questo consumo significherebbe Se io invece abbattessi fortemente quel 68% e li distribuissi gli altri consumi a 100 una volta abbattuto quello, allora l'acqua calda sanitaria potrebbe diventare il 30-35% del consumo d'edificio. Allora anche il semplice investimento di un collettore solare avrebbe un significativo rapporto con i consumi energetici. Che, per l'amor del cielo, io come dire, sponsorizzo di fare insieme al percorso edilizio, però siamo ancora in una fase dove la scarsa attenzione all'involucro fa sì che nell'edilizia l'applicazione di energia rinnovabile sia ancora un'applicazione che non è, diciamo, non ha poi ancora un peso significativo, perché ancora i grossi consumi sono legati praticamente all'involucro, che disperde troppo e in fase estiva, non garantendo una qualità di inerzia termica sufficiente a smorzare gli effetti estivi del sole, necessita poi di un impianto di climatizzazione che, se elettrico, necessita ovviamente di consumi energetici rilevanti. Tant'è che avete visto, è cresciuto quello. E si è abbassato l'uso dell'acqua calda sanitaria, anche questo è spiegabile per certi aspetti, perché stiamo incrementando l'attività sportiva fatta in palestra e all'esterno, probabilmente facciamo una doccia a casa. È abbastanza semplice, diciamo, anche pensare perché si è ridotta l'acqua calda sanitaria. Non è che ci laviamo meno, probabilmente ci laviamo di più, ma ci laviamo fuori praticamente dell'immobile. Dica. Tipo, i costi sono uguali, per esempio, per andare da 20 a 21 gradi. No, sono parecchie diverse, anzi quel decreto Scajola che qualche anno fa, quando ci fu il problema e la paura che la Russia ci tagliasse le forniture del gas, portò a 18 gradi la temperatura, che poi nessuno garantiva a casa sua, perché poi ognuno a casa sua fa quello che gli pare, non è controllabile, ma qualora fosse stato così, noi abbiamo fatto pure una tesi su questa cosa, gli assicuro. Tenere la temperatura a 18 gradi significa dei risparmi energetici discreti, e il problema infatti è anche quello. In casa non è necessario stare a mezze maniche d'inverno, spostare tranquillamente con la maglia e tollerare delle temperature magari un pochino meno alte, insomma, di quelle che, perché questo significa risparmiare parecchia energia, ma parecchia davvero, 2 gradi hanno un discreto rilevanza, diciamo, non sembra, ma è così. Il problema è che, ripeto, questa attenzione poi è anche legata alla qualità impiantistica che si va a montare, ma guardate, qui proprio si va nel semplice. La regolazione termostatica di un immobile che è praticamente delegata a un semplice termostato, spesso anche questa vanifica la qualità energetica di quell'immobile, perché io quel termostato magari lo metto in posizione sbagliata all'interno di un immobile, magari per garantire 20 gradi lì, soprattutto se è in prossimità di una porta, magari in altre località, in altre zone della casa c'ho 23-24 gradi inutilmente, oppure la cattiva collocazione di un radiatore che spreca la sua energia, vi farò vedere delle immagini termografiche praticamente sulla muratura e all'esterno, e anziché, perché magari dei radiatori in casa la gente si vergogna, quindi li metti dietro una tenda, dietro il divano, purché non si vedano, ma questo purtroppo vanifica la loro qualità energetica e aumenta di legno, esatto, le paglie di Vienna, questo aumenta gli sprechi, ma è per questo che dico, se non si ha un'attenzione su questi aspetti, questo 68% rimane lì, e allora rischiamo tutta l'attenzione alle energie rinnovabili di vanificarla. Cioè, nel senso, non perdiamo di vista che la dobbiamo accompagnare, soprattutto nell'edilizia, anche a stimolare, diciamo, degli interventi che per il momento sono veramente sostanziali, cioè l'involucro è sostanziale in questa fase, sia per la parte invernale ma anche per la parte estiva, tant'è che nelle ultime normative hanno posto attenzione anche a questo, perché io potrei necessariamente, come vedete anche, farmi carico del raffrescamento solare, di utilizzare cioè il sole anche per far freddo, però bisogna che i carichi a cui che gli delego siano necessariamente ridotti, perché con i carichi attuali praticamente in un ambiente del genere dovessi fare il fresco col sole, evidentemente mi ci vorrebbe un tetto pieno di questa cosa con dei costi forti che naturalmente nessuno poi ha voglia di praticare. Quindi per stimolare anche questo bisogna necessariamente, diciamo, quindi ridurre i costi semplicemente usando qualche collettore in meno, semplicemente perché si è costruito meglio. Questo è il problema, diciamo, fondamentale. E ora ve lo faccio vedere. Scusi, mi dà il dato del 2003 degli usi elettrici, per cortesia? Questo qui. A 15,7. 15,7. Guarda, ma guardi, gli faccio vedere una tabella che è presa dal sito dell'Enea successiva, che gli va dal 90 al 2007. Guardi gli usi elettrici, dal 13,4 siamo cresciuti al 18,1. Può sembrare poco, ma non è così poco. Ed è l'unico consumo che è cresciuto, se guardate. Quegli altri si sono ridotti di poco per pareggiare quello, perché cioè, il riscaldamento dal 90 a oggi praticamente è rimasto pressappoco, con qualche un po' oscillazione, ma più o meno è rimasto inalterato. L'acqua calda praticamente è diminuita, dall'11,2 siamo passati al 9, l'usi cucina più o meno sono diminuiti, perché effettivamente si mangia meno e si cucina meno, questo ormai anche per problemi di noti. Si fa molta più attività in esterno e poi l'uso elettrico, praticamente. Questi sono consumi che l'Enea riporta dal 90 al 2007, praticamente. E l'altra cosa ancora negativa è questa proiezione, che nonostante tutte le normative oggi sulla certificazione energetica, sull'efficienza energetica, su tutte le cose, questa è sempre una fonte del Ministero dello Sviluppo Economico, Enea, eccetera, eccetera, vedete che se si guarda qui, l'unico consumo che cresce è la refrigerazione, questo l'abbiamo già detto, ma gli altri non è che si modificano più di tanto, cioè non è che si riducono, tant'è che si nota un aumento in crescita dei consumi energetici, cose che noi dovremmo necessariamente abbattere, perché altrimenti noi già nel 2010 non abbiamo necessariamente ridotto nessuna come dire, emissione di CO2, ma al 2020 praticamente sarà così, e teniamo conto che il non farlo per noi è anche un costo economico, perché paghiamo delle multe salatissime all'Europa, alla faccia di tutte le finanziarie, diciamo, che si possono fare in questo paese, appunto, quindi alla faccia di tutte le finanziarie, perché voi fate i conti, diciamo, cosa significa questo fatto, quindi, vabbè, quindi, diciamo, io sposo tranquillamente, diciamo, questa efficienza energetica come concetto, perché credo, questo non è coniato da me, ma credo sia veramente il vero e proprio combustibile che abbia l'Italia, perché, diciamo, prima ancora, vedete, diciamo, anche come potenzialità, prima ancora di rivolgere l'attenzione, diciamo, a altre fonti di energia, migliorare l'efficienza energetica significherebbe dare veramente un taglio significativo, nell'edilizia veramente in modo particolare, diciamo. Allora, velocemente qualche riferimento normativo su queste cose per chi è interessato, perché dalle norme anche si possono capire alcuni concetti che vi dicevo, diciamo, velocemente, questo ve lo faccio perché non credo che siate tutti tecnici del settore e vi interessa più forse la filosofia. Poi se vi interessa io non ci sono problemi, ditemelo voi, sollecitatemi voi anche dalle cose, perché non so le vostre diciamo specifiche come attività, se sono in qualche modo collegate a questo percorso che vi faccio. Ma praticamente diciamo, il percorso virtuoso in Italia è nato con la legge 10 del 91, che è una legge, credo la più bella legge fatta nel settore energetico in Italia, purtroppo una delle più inevase, perché praticamente di certificazione energetica in edilizia e dell'obbligo delle rinnovabili nel pubblico, ma obbligo sto parlando, quando si ostruiva al pubblico, ne se ne parla dal 91 al 93, col 412 che era un regolamento attuativo. E praticamente diciamo, già a quel tempo, nel 91, si diceva che entro 100, no mi pare la certificazione, non c'è qui, la legge 10 del 91, che è ancora in vigore, 10 del 91, che è ancora in vigore, praticamente anche se alcune cose sono state tolte. Perché diceva di certificazione energetica nell'edilizia, ne parlava e diceva che entro 120 giorni sarebbe dovuto uscire un decreto attuativo praticamente in proposito. Quindi dal gennaio 91 siamo arrivati al 2002, in cui la direttiva europea ha parlato di certificazione energetica, obbligando tutti gli stati membri a fare dei decreti di valutazione di questa direttiva entro il 1 gennaio 2006. Bene, noi siamo stati capaci solo nell'agosto 2005 di tirare fuori un decreto attuativo, quindi a distanza di 14 anni dalla legge 10 del 91 praticamente. Abbiamo cominciato a trattare e l'abbiamo trattato sempre in maniera transitoria, dicendo anche qui nell'agosto 2005 che entro 120 giorni avremmo fatto uscire altri 3 decreti, che poi ne è usciti solo 2 quest'anno. questo che ha di attuazione di questo decreto, praticamente il 59, e questo che parla delle linee guida sulla certificazione energetica del giugno 2009, praticamente, quindi la certificazione energetica in maniera un pochino strutturata, siamo arrivati a giugno 2009 per poterla introdurre praticamente nel nostro paese, partendo dalla legge 1091, che con largo anticipo sull'Europa parlava già di questo concetto, diciamo, quindi in maniera virtuosa, perché certificazione energetica da vedere come praticamente un foglio su cui si annota qual è il fabbisogno energetico di un edificio che nel caso di una transazione immobiliare serve a dare la qualità dell'immobile che si va a vendere, in maniera che uno, come quando acquista un'automobile, sa se quella fa 10 o 15 o 20 km con un litro, quando acquista un immobile sa la stessa cosa, cioè sa che quell'immobile gli costerà 10, 20, 30, 40, 50 kWh metro quadro all'anno, quindi questa è l'unità di misura che si usa praticamente. Tradotto, per farvi un'idea molto grossolana e veloce, considerate che 10 kWh equivalgono a un litro di gasolio praticamente in termini energetici. Quindi se io dico che un edificio oggi consuma 30 kWh metro quadro all'anno, significa che consuma 3 litri di gasolio metro quadro all'anno. Allora, un appartamento di 100 metri quadri, 300 litri di gasolio. Al costo del gasolio, voi capite che al costo energetico è molto basso, 30 kWh, perché sono 300 euro, 350 euro all'anno di energia, considerando che ne paghiamo d'inverno noi, nelle nostre case, solo per il gas, quindi questo credo che la faccia largamente intendere. Vuol dire che i nostri edifici si attestano su consumi dell'ordine di 150-200 kWh metro quadro all'anno, per capire. Quindi ben lontani dagli standard che ormai, per esempio, nella provincia di Bolzano, sotto 70, sopra 70, insomma, diciamo già sotto 50 come standard costruttivi. E alcune regioni e alcuni anche comuni si stanno orientando in questa direzione, ma Toscana è ancora un po' latitante su questi aspetti. Questo per quanto riguarda quindi la normativa a livello nazionale. Poi, per la determinazione dei fabbisogni energetici, questo da un punto di vista proprio tecnico, l'Europa poi evidentemente tira fuori delle norme tecniche, in particolare questa, vedete la sigla EN, significa una norma di derivazione europea, in cui l'Uni mette solo il simbolo davanti, non la traduce nemmeno, la lasciata in inglese, però fa pagare 70-80 euro, perché un collega del Politecnico di Milano ha fatto il conto che l'anno scorso sono uscite circa una quarantina e passa norme nel settore energetico, se uno le comprasse tutte spenderebbe circa 3.000-3.500 euro, tanto per capirci, e questo è il grosso problema anche, diciamo, che abbiamo. Non so, questo mi torna, come che una norma, quindi una norma pubblica, un Parlamento, eccetera, una normativa tecnica deve essere il Parlamento. Questo torna a nessuno, nessun termine di torno, ma è così. In Italia praticamente le norme del settore tecnico, comprese quelle cogenti, cioè magari quelle cogenti quelle che escono sul gazzetto ufficiale, lei se le può copiare, perché prende la gazzetta e se le può copiare. E quell'altra che teoricamente non potrebbe copiare, che sono però d'osservanza, perché se si va per esempio nel settore dell'impiantistica gas, lei per fare un impianto a regola d'arte le dice una legge, la 1083 che è del 71, lei deve osservare norme une. E allora le norme une significa che lei bisogna che le compri o le consulti automaticamente, però le può consultare solo pagando. E purtroppo è così. Cioè è un'anomalia della nostra logica, non so gli altri paesi, ma se sono allineati così, ma credo molto meno di quanto faccia l'Italia, di questa normativa che ha fra l'altro anche dei costi nemmeno puoi trascurare, insomma, e che fra l'altro, proprio perché ormai si limita a prendere atto di tante normative che vengono dall'Europa, infatti la sigla sono sempre UNIENNE ormai le nostre norme, che escono naturalmente in lingua inglese, francese e tedesca, perché l'Italia ha un certo peso in Europa, l'Uni qualvolta le traduce, talvolta no, ci mette l'Uni davanti e te le vende, cioè non è che fa nemmeno un'opera troppo virtuosa. Quali sono dei motivi del ritardo nel modo di costruire? Questo no, è un motivo di ritardo perché normalmente vengono acquisite a livello UNI magari un anno dopo da quando sono uscite, almeno un anno dopo da quando sono uscite a livello europeo, che sarebbero già di osservanza teoricamente, quindi l'UNI generalmente colpevolmente almeno con un anno di ritardo. Poi nella fattispecie in questo caso, a parte ci avevamo lavorato prima di questa norma, ho fatto parte anch'io insieme a Corrado, che è un uno del Politecnico di Torino, un collega che praticamente ha lavorato sulle stesure di queste norme, che praticamente sono praticamente in sostanza un'enunciazione di come operare a livello italiano, cioè di come rende fattibile questa norma che è nata in Europa a livello italiano, anche perché poi talvolta noi subiamo anche il fatto che delle norme che nascono a livello europeo, essendo diciamo, come dire, nate sulla spinta di alcuni che evidentemente lavorano su paesi molto più freddi di noi, che hanno più peso del nostro, praticamente diciamo, generano delle norme che non sempre si adattano in maniera anche nella stessa maniera sono adeguate anche per un territorio come il nostro, che presenta al sud situazioni completamente diverse da una Germania, da una Danimarca, da una Svezia, eccetera, e quindi talvolta presentano anche, come dire, dei limiti di applicazione sul nostro settore, nel nostro paese. Quindi questa norma è voluta anche in qualche modo poter rendere fattibile l'applicazione di quella norma 13.790 sul settore italiano, e ormai questi decreti richiamano espressamente questa norma UNITS 11.300 per la caratterizzazione del fabbisogno energetico in edilizia, sia per la parte estiva che per la parte invernale, perché questa norma di nuovo ha portato che oggi io devo, quando costruisco un edificio, devo caratterizzare fabbisogno invernale, fabbisogno estivo, fabbisogno per l'illuminazione e fabbisogno per l'acqua calda sanitaria, perché la certificazione energetica di un edificio vorrebbe vedere questi quattro aspetti evidenziati con i loro coefficienti e poi tutti insieme a concorrere nel consumo complessivo dell'immobile. Anche se per ora obbligatoriamente siamo delegati a enunciare il fabbisogno invernale e il fabbisogno dell'acqua calda sanitaria, prossimamente entrerà sicuramente in ballo anche quello estivo e quello dell'illuminazione, perché qui è già in parte tracciato, anche se merita qualche ulteriore approfondimento. Questo da un punto di vista normativo. Significa CEN? CEN è il Comitato Europeo di Normazione. Quindi queste sono le norme che esistevano e che sono ancora in vigore, perché praticamente poi abbiamo il cattivo costume, questo decreto l'abbiamo praticamente smantellato per buona parte, ma per due articoli, per capire quali sono le zone climatiche italiane e classificare gli edifici, è rimasto valido. Cioè probabilmente se lo traslavano nel nuovo decreto e lo toglievano di mezzo avrebbero fatto un'opera proditoria, ma è troppo difficile arrivare a questi concetti. E l'altro aspetto, praticamente viceversa, che mi premevo a sottolineare in un contesto come questo, è che non molto note, ma esistono queste direttive a livello europeo, compreso un decreto di recepimento di questa praticamente, che riguardano anche la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. Cioè si incomincia a fare attenzione anche all'uso appropriato dei materiali che consumano energia, perché anche questa è un'operazione che prima o poi la dobbiamo in qualche modo qualificare molto meglio, perché naturalmente anche nella visione che se io vado a utilizzare un materiale il cui costo di produzione, il cui costo di approvvigionamento è superiore a quello che fa risparmiare l'opera, praticamente è inutile che lo usi. E allora qui attenzione, io non vorrei essere, perché talvolta diciamo lo sono in questi casi, attenzione perché a volte anche i materiali naturali, ve lo faccio un esempio, il sughero, considerato come un materiale diciamo da un punto di vista applicativo e soprattutto nell'orbita della riarchitettura, materiale diciamo auspicabile, in realtà se lo si va a ben vedere sul nostro territorio è un materiale che per produrlo consuma una marea di energia, perché si produce tutto per induzione elettrica, con forni di induzione elettrica consuma un sacco di energia. Ve l'assicuro perché mi avevano chiamato chi lo produce qui al Chiesino Zanese per montare un impianto di cogenerazione, perché praticamente non sapeva come assorbire i consumi. Praticamente non sapeva come smaltire praticamente il polverino che deriva dalla lavorazione, perché era un rifiuto speciale, per fortuna gli ha preso il consorzio Polton, che ora lo mette nell'atelizio, diciamo, insieme all'atelizio per ridurre i consumi. Ma soprattutto ha dei costi energetici, anche quello rilevanti, perché le sugherane in Italia non ci sono e lo viene andato all'Algeria il sughero, per cui va preso là, va portato con le navi, eccetera, eccetera, quindi ha i suoi costi energetici anche il sughero. Quindi se si va a vedere, per arrivare a questa qualità di scelta, se lo voglio comparare con un polistirene qualsiasi prodotto col petrolio, dovrei avere la qualità di capire tutto questo ciclo di vita, cioè capire quanto mi fa risparmiare un'opera, ma capire anche quanto mi serve per produrlo e quanto mi serve per smaltirlo, perché anche purtroppo il fotovoltaico per il momento è un rifiuto speciale. quindi quando lo vado a smaltire mi necessita un problema anche quello. Quindi diciamo sono quelle cose su cui purtroppo bisogna fare un certo tipo di attenzione, perché vanno messi in gioco anche questi e sulle quali si può ricevere qualche contestazione. Quindi questo per dire, diciamo, per il momento sarebbe auspicabile intanto che ci facessimo carico del problema, che lo perseguissimo, però poi lo dobbiamo ottimizzare sotto diversi aspetti, compreso quella che si chiama anche life cycle dei materiali, che è cioè il ciclo di vita, che per esempio una ditta che produce un poliuretano praticamente, che poi diciamo ha cominciato a fare, perché nel suo depliant che fornisce c'è scritto anche il ciclo di vita di questo materiale, cioè quantomeno ha cercato commercialmente di vendere il suo prodotto mettendo in evidenza quale sia anche il costo energetico della fase produttiva di smaltimento di questo materiale per compararlo con altri. E questa direttiva, fra l'altro, è già stata pure corretta da una direttiva 2008 praticamente, sempre diciamo sul problema dei materiali di consumo di energia e sempre sulla presentazione ecocompatibile dei prodotti di consumo di energia, su cui diciamo, mi sembra che possiate essere interessati, diciamo, qui ci sono riferimenti, se la scaricate facilmente, scusate, ma pensavo di aver capito. E praticamente ve la scaricate facilmente, diciamo, dalla rete, praticamente con questi riferimenti ve la trovate tranquillamente senza problemi. Ok, poi diciamo queste sono norme, ora non entro nel dettaglio, ecco, mi temeva invece fare qualche chiacchiera su queste cose. Se si prende un'altra direttiva, che era 2006, che ve l'ho fatto vedere prima, 32 CE, del 5 aprile, guardate quanti suggerimenti in termini di efficienza energetica si indicano. C'è chiaro, c'è anche le energie rinnovabili, ma ci sono tanti altri aspetti su cui vorrei fare attenzione. Quindi, intanto praticamente sul riscaldamento e raffreddamento cominciano a richiamare appunto con più efficacia, diciamo, di quello che poteva essere visto una volta, l'uso delle pompe di calore. Pompe di calore non sono, diciamo, naturalmente che consumano energia elettrica, perché per il momento andiamo con i compressori elettrici, che possono sfruttare come sorgente l'aria o il geotermico, cioè il terreno praticamente. Nuove caldaie efficienti, ovviamente si fa riferimento a caldaie a condensazione, cominciando a indicare anche che nella logica energetica bisognerebbe cominciare a progettare impianti a bassa temperatura per quanto riguarda l'acqua, perché è chiaro che se questa acqua la, diciamo, in qualche modo sulla bassa temperatura va a vantaggio tutta una serie di rendimenti impiantistici che sono la parte di dispersione dell'impianto, la caldaia, se ho l'acqua a bassa temperatura, la caldaia come involucro, come sistema, disperde meno, ma soprattutto dovrei evitare quello che è ormai un classico spreco della caldaia, perché è inutile fare tanti discorsi se poi ora si guarda cantieri e tutte le caldaie vengono poste in esterno, cioè la caldaia in esterno energeticamente è un assurdo, perché tutto il suo calore che ha dentro, qualsiasi corpo, per effetto di avere una temperatura superiore a quella di un altro corpo, c'ha un flusso termico. Allora, se la metto in esterno, questo flusso termico inevitabilmente è elevato, quindi è la cosa più assurda che si può fare. Per di più, le caldaie in esterno dovrebbero essere più isolate, ma probabilmente per risparmiare vi ci mettono quelle da interni fuori, perché diciamo tanto... È abbastanza assurdo. Avere una bocca così bassa e una bocca così alta per legge, le gambe dell'aria... Quello purtroppo, quella cosa lì penalizza tante cose, anche l'acustica delle pareti degli edifici. Il problema è che purtroppo c'è una logica di sicurezza che, quando c'è il problema della sicurezza, cioè se quelle buche ci fossero state con le vecchie caldaie che si usavano una volta, quelle con la fiamma pilota, tanta gente non sarebbe morta di monossido di carbonio. Era nato per quello. Chiaro che energeticamente ha ragione lei, cioè sono negative, però era nato per supportare... Sì. Ma vi assicuro, ma vi assicuro, guardi, che sono purtroppo, lo dico purtroppo, ma io sono purtroppo reduce di recente da una perizia che mi hanno chiamato a fare sulla morte di due persone ancora con monossido di carbonio, in una casa dove la mancanza di quelle bocche ha determinato nella fase di installazione di una caldaia che non era ancora messa, diciamo, relativamente a norma per l'uso, ha determinato la morte di persone, insomma. Cioè, nel senso, non trascurate questo concetto, che la sicurezza è un problema essenziale sulle quali quindi si può giocare poi recentemente. Certo è che il ricambio dell'aria, che è dovuto per problemi igienici, ma anche perché poi nel caso c'è la udenza, perché se no, se l'aria non la ricambia mai, poi inevitabilmente ha questo tipo di problemi, dovrebbe essere supportato magari anche da un'impiantistica che gli consente di non sprecare questa energia. Cioè al nord, se si può fare delle case a basso consumo, diciamo, parlo provincia di Bolzano, eccetera, c'hanno ormai il ricambio dell'aria, la ventilazione meccanica controllata. C'è un impianto che gli fa questo prelievo dell'aria e gliela reimmette in maniera automatica e controllata al punto che magari si tende anche a interscambiare quello che butto via con quello che entra per recuperare calore anche lì, insomma, soprattutto, diciamo, quando evidentemente le portate in gioco sono abbastanza significative. Diciamo, c'è meno 20 fuori, non mi posso permettere di tenere più 18, meno 20. Ma energeticamente sì, ma gli assicuro che anche per l'apparecchio di cottura lei è obbligato di legge a fare quell'apertura, e quell'apertura ha una logica di sicurezza, e sulle logiche di sicurezza purtroppo lì non ci si può onestamente sì, ma la valvolina del metallo, perché l'aiuto quando non cucino e sta chiuso, quindi il metallo a casa dice. Sì, però lei un po' no, nel senso, la sicurezza non si può fidare di lei. Siccome sono anche impianti autonomi, cioè se lei è virtuoso e poi accanto c'è una signora di 80 anni che evidentemente 90, che ormai, diciamo, comincia a avere delle difficoltà a gestire queste cose, ma se la fa saltare per aria, lei è inutile che abbia fatto tutte le sicurezze di fare, praticamente la fa saltare per aria alla persona accanto. Quindi, diciamo, questo tipo di cose vanno perseguite in termini seri, perché purtroppo gli impianti gas in Italia, se le facesse vedere delle statistiche, ora molto meno perché le caldaie oggi sono quasi tutte stagne, ma in passato praticamente hanno comportato un sacco di morti proprio per la... E il problema è il 60-68% dei problemi era legato a mancata ventilazione degli ambienti, legata proprio a quella bocchetta, sicché vi assicuro che non è trascurabile quella logica. Allora, il problema della bassa temperatura, dicevo, degli impianti è quello perché, quindi, caldaie che disperdono meno, le tubazioni disperdono meno, diciamo, allora, e altri, insomma. Quindi, allora, quale sarebbe l'impianto a bassa temperatura per eccellenza? Chiaramente il pavimento radiante, perché è l'unico impianto che può avvantaggiarsi in maniera seria sia delle pompe di calore che delle caldaie a condensazione, e soprattutto può essere facilmente integrato con dei sistemi d'accumulo con il sole. Allora, il sole lo uso questa volta non per fare l'acqua calda, ma me ne serve a livello più atteso per riscaldare veramente. Perché in un sistema a bassa temperatura, fatto con pavimento radiante, poi vi farò vedere un esempio tedesco, io posso accumulare questa energia solare in serbatoi dove automaticamente poi prelievo questo calore per l'impianto a bassa temperatura, oltre che per l'acqua calda sanitaria. Cercando di stratificare quest'acqua e prelevare magari in basso, dove la temperatura è più bassa, la parte che va all'impavimento radiante, in alto dove ho stratificato l'acqua calda per l'acqua calda sanitaria, con dei sistemi d'accumulo semplicissimi che vanno nemmeno dei costi rilevanti. Quindi allora comincio a utilizzare il sole non solo per fare l'acqua calda, parlo di quello termico, ma anche per l'impiantistica, diciamo, vera e propria. Perché dicevo che questi sistemi per l'alte temperature non hanno senso? Perché una caldaia a condensazione, come funziona rispetto alla caldaia tradizionale? Semplicemente perché nei fumi prodotti dal metano c'è vapore d'acqua che va via attraverso la canna fumare. Se io lo condenso, questo vapore d'acqua, recupero quel calore, perché per condensarlo il vapore deve cedere questo calore. Quindi ho più calore a disposizione da dare all'acqua degli impianti. Quindi la caldaia è più efficiente. Però capite una cosa, che se io prendo l'acqua di un radiatore a 70-80 gradi e la faccio ritornare in caldaia a 60-70 gradi, non può condensare quel vapore con quelle temperature lì. Quindi se mi monto una caldaia a condensazione in un impianto tradizionale dove la temperatura dell'acqua del radiatore la mantenga a 70-80 gradi, è come se non ce l'avessi la caldaia. Cioè spendo il doppio per una caldaia che funziona come una caldaia tradizionale. Dite voi, ma tanto c'ho la detrazione IPEF, me la fa pagare, mi fa detrarre l'IPEF. Questo perché la normativa e il normatore non ha nessuna visione del gioco, perché vi dà questi sovvenzionamenti inutilmente, perché voi non avete ridotto nessun consumo, avete solo pagato una caldaia migliore al prezzo di una caldaia peggiore, ma la utilizzate come una caldaia peggiore, perché per utilizzare i radiatori a bassa temperatura, essendo stati progettati questi 10 elementi per 70 gradi, perché se ci mando l'acqua con meno e mi danno meno calore, bisognerebbe che avessi più superficie di scambio, cioè invece di 10 elementi mi ce ne vorrebbe 20. E allora, cioè, io ho la fortuna che queste caldaie a condensazione poi qualche volta funzionano anche nell'impianto tradizionale, perché fuori è più caldo di 0 gradi per i quali sono stati progettati, ma solo per quello. Per la casualità della temperatura esterna, altrimenti la caldaia a condensazione con gli impianti che ci hanno progettato nelle case sono praticamente inutili, diciamo, se non accoppiate invece a una reale esigenza diversa legata alla bassa temperatura come quella del pavimento radiante. Quindi questo è intanto quindi una logica di efficienza e un uso improprio che si fa dell'impiantistica praticamente nella civile abitazione, che vi assicuro incide tantissimo, perché significa avere dei rendimenti di impianto che magari invece di essere insomma, 70-80% sono 60-50, non rispettano magari nemmeno la norma, ma soprattutto consentono dei fabbisogni di energia primaria molto elevati praticamente. Un'altra domanda. Ammettendo trascurabili i consumi della pompa dell'acqua della caldaia, di fatto lo sono, se io tenessi il riscaldamento acceso tutto il giorno in casa, sì, con una temperatura dei termosifoni più bassa, lo devo fare perché sei obbligato per legge a farlo. No, cioè, ma vuol dire. No, dico, a passare la temperatura un po' c'è più di 12 ore in maniera appesa l'impianto, però per legge. Ok. Però quello che volevo dire. Sì, ho capito quello che vuole dire. Lui dice, se piuttosto che spegge o se c'è un risparmio di energia, deve valutato, ma io credo dipende dall'involucro anche, perché dipende dalla qualità dell'involucro, cioè se lei c'ha un involucro che praticamente diciamo, è in grave, una buona inerzia termica, sicuramente varrebbe la pena di non spengerlo diciamo completamente, comunque in generale, perché diciamo c'ha questo involucro che in qualche modo ti dà l'inerzia nel senso che se io l'impianto cerco di non mandarlo completamente a bassa temperatura, ma lo mantengo su un certo standard, e quando poi c'è da ripristinare i 18-20 gradi che invece vogliono, il consumo energetico che si va ad aggiungere, sommato a quello per il mantenimento, resta complessivamente inferiore al fatto che se io lo faccio raffreddare e poi do la via alla massima potenza. Tenga pure presente però che le caldaie in termini energetici funzionano bene se le fa funzionare alla massima potenza, perché il rendimento di una caldaia è praticamente fatto in questo modo, è fatto così, quindi se funziona alla massima potenza c'è un massimo rendimento, se una caldaia la sottoutilizza normalmente i rendimenti sono più bassi, tranne le caldaie a condensazione che viceversa hanno i loro rendimenti su carichi più bassi, perché in quel caso condensano facilmente il vapore d'acqua, perché altrimenti un po' condenserebbero insomma in un certo senso. Per cui c'è un uso appropriato anche dell'impianto, una scelta appropriata dell'impianto che ha un'incidenza non da trascurare diciamo sulla logica del fabbisogno complessivo, che poi vi faccio vedere anche in un figurino. Anzi, andiamola a vedere e poi ritorniamo magari su questo aspetto, perché è bene anche avere un'idea diversa se non. La logica energetica in termini di fabbisogno è questa sostanzialmente. Questo. Cioè, il fabbisogno di energia di una casa cos'è di fatto? Tanto anche per capirlo, diciamo, velocemente. Vedete, è quello lassù, perché tra l'altro l'indice che poi costituisce una verifica da un punto di vista normativo, che si chiama EPI, sarebbe sostanzialmente quel QC diviso la superficie utile dell'impianto. Questo QC viene visto come fabbisogno di energia primaria, cioè è l'energia che io brucio col combustibile praticamente per ottenere un certo fabbisogno in casa, che d'inverno diciamo significa mantenere 20 gradi. Allora, per mantenere 20 gradi in casa io avrei bisogno di quel QH lassù, facendo il bilancio diciamo energetico di questo edificio. Cioè io fate conto che per avere 20 gradi qui, supponiamo, praticamente avrei bisogno di 100 come fabbisogno. Se il rendimento di impianto praticamente da G fosse 0,5, vuol dire che io per avere per avere 20 gradi e quindi un fabbisogno di 100 devo bruciare 200, questo significa questa formula qua. Perché vedete, mette, diciamo, nella frazione sotto i rendimenti di impianto, vuol dire che più bassi sono quei rendimenti e più energia io devo bruciare per ottenere quel quarka, no? Perché se fisso il quarka, una volta che ho progettato l'involucro, quel quarka è fissato. Quando ho fissato quello, se io tengo rendimenti di impianto bassi, ho bisogno sempre di più energia in sostanza. Di contro, se fisso l'impianto, allora devo necessariamente abbassare molto quel QH per avere dei fabbisogni di energia primaria. E cos'è quel QH lì? È la differenza tra quelle frecce in uscita celesti e gli apporti gratuiti che sono rossi. Perché in uscita io cosa ho? Le dispersioni attraverso l'involucro, opaco e finestrato, cioè muri e finestre. C'ho le dispersioni legate alla ventilazione, cioè ai ricambi dell'aria. C'ho le dispersioni attraverso locali non riscaldati, come questo. Dispersioni verso il terreno, queste sono tutte le dispersioni dell'edificio d'inverno. Poi quale apporto gratuito ho? Però moltiplicato per un fattore che riduce questi apporti, perché si chiama fattore di utilizzazione, perché io sono, non è che le dispersioni ce l'ho sempre, ma se non ce l'ho sempre, allora viene mitigato da un fattore di utilizzazione questo apporto che si trova sulla norma, e gli apporti sono il sole che entra direttamente dalle finestre, quindi vedremo dopo progettare opportunamente la disposizione delle finestre in maniera opportuna a sud eccetera eccetera, può significativamente essere un bel beneficio. Io ho misurato in una villa padronale con una bella vetrata a sud di 27 gradi a febbraio a impianto spento, questo per dire quanto l'apporto gratuito potrebbe essere significativo. Poi apporti gratuiti legati alle pareti opache e apporti gratuiti interni, perché le persone, le illuminazioni, il computer, cioè se sentite questo vetro qui, l'aria calda che mi serve per raffreddare il computer e il ventilatorino, qui è un apporto gratuito se ci avessi, ma il frigorifero, di casa vostra, cucina, è una pompa di calore, perché praticamente quel calore che si ottiene dentro insieme all'energia del compressore lo ributta fuori col condensatore. Quindi l'inverno mi sta bene, l'estate un po' meno, perché è un carico aggiuntivo che non vorrei avere. È vero che molto spesso in cucina, se la cucina è sufficientemente piccola, il radiatore della cucina si spegne. Esatto, ma infatti, ma perché dovrebbe essere programmato e progettato al più ridotto, oppure dovrebbe necessariamente, perché lei in cucina c'ha 24 gradi, poi avanzare ce n'ha 20 o 18, dovrebbe avere lì delle valvole termostatiche, anche queste che hanno dei costi relativi, che gli potrebbero termostatare la temperatura in tutti gli ambienti, così lei eviterebbe molti meno sprechi, anziché avere un termostato solo, che se c'è un appartamento da 150 metri quadri, 120 metri quadri, dispone sicuramente, non potrà mai disporre in maniera ottimale mai, perché o lo mette a sud, o lo mette a nord, o lo mette vicino a una porta d'uscita, insomma, comunque sarà mal disposto. Gli alberghi che magari il primo piano c'è a 25 gradi e soffrono. Ma non diciamo gli alberghi, vediamo le scuole dove non c'è nemmeno il termostato, dove lo spreco di energia è folle al punto che si deve aprire le finestre quando è caldo fuori per mantenere la temperatura, perché gli sprechi energetici grossi li abbiamo in questi ambienti qui, nel pubblico, sono enormi. Perché io non ho mai visto un pubblico termostatato da un controllo della temperatura, mai. Ma quindi questo, per di più, vi ripeto, il pubblico aveva l'obbligo dal 93 di predisporre le energie rinnovabili, salvo impedimenti di natura tecnica e economica, si significavano tempi di ritorno, non era una parola nata a caso, di 8 anni sulle extracosti, diciamo, dell'impianto, fino a 10 anni per i comuni con più di 50.000 abitanti. Guardate che in 8-10 anni si recupera quasi tutto. Oggi anche il fotovoltaico, a quel tempo no, ma oggi abbondantemente si recupera in 10 anni anche il fotovoltaico, senza problemi, con i costi ridotti che si sono ormai. Quindi, per dire, e qui vedete quali sono i rendimenti di impianto. I rendimenti di impianto sono questo della caldaia, che è uno, e questo mi dice se la metto fuori e qui tutte le dispersioni dell'involucro sono tutte perse. Poi i rendimenti della rete di distribuzione, che se non la isolo, non la metto in maniera opportuna, praticamente disperdo calore. I rendimenti legati a questo sistema, che se non è ben progettato per avere 20 gradi qui, lui spreca molta più energia di quella che sarebbe necessaria e in condizioni molto diverse. Se prendete un capannone, per avere 18 gradi alla mia altezza, praticamente andate in cima, ci saranno 24-25 gradi, anche di più. Quindi vuol dire che c'è uno spreco di energia. Io riscaldando l'aria con un capannone per dare un beneficio a me, praticamente ho sprecato 28-30 gradi in alto inutilmente. Quindi. Poi il rendimento è legato al sistema di regolazione. Allora questo vi fa capire che anche se li prendessi elevati questi rendimenti, prendiamo il 90% per ciascuno, 0,9 per 0,9 è 0,81, per 0,9 siamo a 0,72, per 0,9 0,63. A parte già siamo fuori del rispetto della norma. Ma se divido 100, diviso 0,63, produce quasi il doppio per avere 100 in sostanza. Questo significa, quindi la componente impiantista è fondamentale, oltre che avere un QH fortemente ridotto e quindi isolando bene l'immobile. Quindi, questo per dire che se non si fa un percorso virtuoso in questa direzione, si rischia di rimanere in quel 68% e quindi di andare a aggredire con rinnovabile solo una percentuale ridotta, se non riesco ancora a fare una cosa di questo tipo. Sì. L'altra volta si era parlato della discussione che è venuta fuori di una, un brevetto italiano che si chiamasse Totem, che fosse una realtà in cui potesse anche energia elettrica. Poi glielo faccio vedere, è cogeneratore. Ma Totem, il Totem mi guarda, aveva, cioè come principio va benissimo. Cioè la cogenerazione come macchina Totem il vero e proprio, che è una ditta ben specifica, non era un granché, insomma. Ma queste macchine esistono? Sì, esistono, sì. È un'evoluzione. Prima con la legge 10 del 91 la cogenerazione era una fonte assimilata alle rinnovabili, ora non viene più riconosciuta come fonte assimilata. Non si sa perché, perché io la ritengo ancora valida, secondo me, come riduzione dei consumi. Se lei fa una piscina senza il cogeneratore, le cartiere a Lucca hanno tutte i cogeneratori, perché se no consumerebbero delle energie folli. C'è un sistema, ma guardi, il Totem lo sa cos'è, era la 127, il motore della Fiat 127, che allora poi vi faccio vedere come produceva energia termica elettrica insieme, semplicemente. Era vero, è andato proprio, hanno ripreso il motore della 127, l'hanno montato su un blocco, praticamente hanno fatto questo sistema, diciamo, di logica. Ve lo faccio vedere. No, relativamente alla sicurezza, la caldaia che è nello scantinato. Sì. Non c'è di cambio di aria, eccetera. Ma questo lo devo creare, infatti qui c'è un'apertura. Ma questo è obbligato, se anzi, sotto i 35 kW non avete l'obbligo di collocare tecnica apposta per i caldaie. Praticamente le commette dove li fare. Ah, sotto i 35 kW. Sotto i 35 kW, purché il locale sia ventilato, dice la norma sul gas, cioè ventilare vuol dire ci serve una finestra. Perché seppure le caldaie sono. No, perché le caldaie sono stanche. No, chiusa, però siccome le caldaie sono stanche, ma c'è l'allaccio del gas, almeno se uscisse il gas da lì, almeno la possibilità di aprire una finestra per le aria è necessario. Quindi per quello che è la norma della legge. Cioè, nel senso, gli dice soltanto di non mettere in uno sgabellino chiuso dove non c'è nessuna apertura con l'esterno. Poi in casa può mettere di fare, anche in casa. Anche in camera e nei bagni, ora quelle stanche, mentre quelle di prima no. Ovviamente in camera e nei bagni non si potevano mettere, ma quelle stagne attuali, che quelle stagne attuali non hanno nessun contatto con l'ambiente, prendono l'aria da fuori con un tubo e poi i gas combustibili li buttano fuori e il sistema di combustione è completamente estraneo rispetto alla protezione. Mentre prima c'era la fiammellina pilota e l'aria che per la combustione la pigliava dall'ambiente, per cui se nell'ambiente mancava, quindi bastava un caminetto, metteva in depressione l'ambiente, praticamente lui gli mancava aria. E con il difetto d'aria e la combustione del metano avviene producendo monossido di carbonio, certo. E di monossido di carbonio si muore. Certo. E purtroppo c'è stato tanti problemi in questo senso. È chiaro, questo fa bisogno di energia, sì. Diciamo. Quindi capite quali sono i percorsi che si devono fare. Significa ridurre queste frecce celesti, aumentare queste rosse e aumentare i rendimenti degli impianti che si vanno ad adottare. Ci sono diversi percorsi su cui lavorare praticamente. E allora, se si ritorna praticamente alla normativa di prima, in sostanza, l'allegato era anche lì, ma qui poi ci sono altre cose, ve lo fa vedere da qua. Se si ritorna alla normativa di prima, ripercorrendo questo, vedete che alcune delle strade che vi ho fatto vedere sono tracciate praticamente qui, no? Scusate, devo fare questo qua, questi fermi sono necessari. Ecco, eravamo fermi qua su a livello impiantistico, ma poi a livello praticamente, vedete, di involucro, isolamento e ventilazione, isolamento di cavità murale, doppi, tripli vetri alle finestre, perché tra l'altro la normativa oggi con le trasmittanze che chiede, già doppi vetri con l'aria che abbiamo nelle case non sono già più sufficienti se si va a ristrutturare. A parte la verifica della trasmittanza è stata tolta quest'anno come sul nuovo che chiede solo la verifica. Trasmittanza significa che io praticamente quando ho progettato un involucro murario, cioè una serie di strati di pareti, insomma, intonaco, laterizio, isolante, intonaco, a questa parete gli assegno un dato, la trasmittanza, che se è piccolo vuol dire che ho poca dispersione attraverso questa parete. Se è grande vuol dire che la dispersione è elevata, perché praticamente il flusso termico che se ne va via è il prodotto di questa trasmittanza per la superficie della parete, per il salto di temperatura fra interno e esterno, che se fuori dentro voglio 20 gradi, fuori c'è 0, è 20 in sostanza. Quindi una parete che ha una trasmittanza di 1 significa che ogni metro quadro disperde 20 watt praticamente questa parete, ogni metro quadro, se ha una trasmittanza di 1, che è la trasmittanza di una parete di Forton, per capirci. Forton è da 25 con il tono, più o meno. Ma la normativa oggi come chiede delle trasmittanze che sono sull'ordine degli 0,4 come verifiche, 0,36, vorrebbe dire che io o faccio una parete, se col Forton ho 1, vuol dire che per avere 0,4 ci vuole 50, anche 60 di Forton, per evitare 60 bisogna ci mettere isolanti. Certo. Perché praticamente 3 cm di isolante sono equivalenti a 25 cm di porto, per capirci. Allora, ecco che bisogna che faccia il cappotto, che faccia parte del titolo anche del mio argomento. Cappotto significa porre un isolante in esterno tale che la sua resistenza termica abbatta fortemente questa trasmittanza, perché la resistenza termica di una parete è l'inverso di questa trasmittanza, cioè se io dico che la trasmittanza è elevata, vuol dire che c'è una resistenza termica bassa, se c'è una trasmittenza bassa c'è una resistenza termica al passaggio del calore elevato. Perché dice le doppi vetri non sono più sufficienti? Doppi vetri perché sui doppi vetri mi chiedono delle trasmittanze che i nostri doppi vetri non sono più in grado di garantire, perché hanno delle trasmittanze doppi vetri con l'aria intorno a 2,5 orientativamente, la normativa chiede meno di 2,2 tendenzialmente. Quindi la fare a 3? O tripli vetri o con la doppia decapelli, oppure doppi vetri però con gas nobile, anziché con l'aria, con l'ardo, con il cripto, con altri gas. Non cambiate anche gli No, cioè lei, ora lei non è obbligata a nulla, se lei c'è un edificio, lei diventa obbligata se lei costruisce qualcosa di nuovo o se ristruttura in maniera sostanziale. Se lei lo vuol fare, però attenzione anche qui. Cioè, se io fossi un progettista serio, gli direi, rifacciamo la distribuzione dei consumi a casa sua. Guardi, io si è fatto uno studio su una tesi su 50 edifici storici a Pisa e 50 a Pistoia, e si è visto, per esempio, che la superficie finestrale incide poco sul consumo. Perché? Perché sull'edilizia storica, cioè, l'edificio una volta, in assenza di impianti, non era mia coglione, cioè, i vetri ce ne mettevano almeno possibile. Perché non erano vincolati a fattori di eliminazione, no. Se lei c'ha tanto vetro può darci che abbia senso, ma sull'edilizia storica il fatto del vetro semplice o il vetro doppio, anche se lei mi ricambia, non è che raggiunge dei traguardi interessanti, perché è così piccola la superficie rispetto alla. Anzi, se le posso assicurare, per come ora sono distribuiti questi immobili, che col tempo hanno acquisito una stanza da una stanza davanti, eccetera, eccetera, le dispersioni più grosse che abbiamo riscontrato erano verso locali adiacenti, cioè nemmeno verso l'esterno, locali adiacenti, perché il maggior sviluppo di superficie era lì. Quindi anche un locale non riscaldato, seppure non a 0 gradi dall'altra parte, ma magari a 10 gradi, però finisce che se da qui ho 10 metri quadri a 20 gradi di salto termico e li faccio a 100 metri quadri anche a 10 gradi di salto, e ci sono più questi che dire l'altro. Quindi se dovevo fare un intervento che avesse un senso, andavo a isolare questi invece che l'esterno, ovviamente. Cioè, questo vuol dire che anche in un'edilizia, prima di decidere cosa fare, bisogna fare delle diagnosi serie che mi permettono in una torta di consumi di dire, questo incide il 30, questo il 20, questo il 10, questo il 5, allora uno su cosa lavora? Tendenzialmente sul 30, naturalmente facendo anche una valutazione economica che non si ha. Che per dire, se devo intervenire, è praticamente la nostra un'esagerazione, evidentemente lo faccio, ma tenendo conto di questa scala di priorità legata dagli effettivi consumi, altrimenti, cioè, se non ho questa visione del gioco, è inutile che io mi approcci praticamente all'edificio. Quindi è inutile, c'ho una finestra sola, ci posso mettere anche, la posso anche murare, non ho cambiato nulla, dice così, la muro e sono sicuro di perde meno del vetro, ma non mi serve nulla perché magari è 2 metri quadri di superficie su 100 di alta natura, ecco perché devo. Quindi queste sono indicazioni generali che uno deve poi capire come in qualche modo ricondurre alla propria realtà semplicemente valutandola e facendo una diagnosi seria del problema. E poi qui parla di dispositivi anche sull'uso dell'acqua calda, sull'illuminazione, dice lampade a basso consumo, siamo d'accordo, però vi dico, nelle nostre case le lampade a basso consumo, montiamole, siamo obbligati fra poco. Ma quanto crede che incidano sui consumi energetici delle nostre case? Ma prima di tutto io la casa mia sono sicuro che la spengo appena esco dalla stanza. Il problema è negli edifici pubblici. Che se lei passa da affrontando per lavoro io, ingegneria, ora la sera alle 11, vede un sacco di ossidi contrari, dice quante gente a lavorare c'è? C'è nessuno. Il problema è che sono rimaste accese, semplicemente perché un interruttore a tempo non riesce a bloccare quell'illuminazione inutilmente, perché anche la gente è uscita da lì siccome la paga lui e l'ha lasciata accesa. Perché a casa non si lascia accesa la luce. Io se lascio accesa la lampadina, la mattina devo rendere conto alla mia moglie che ho fatto questa cosa, ho preso l'accesa. Ma praticamente, diciamo, se lascia accesa praticamente all'edificio pubblico, non dice niente nessuno, va benissimo. Ho detto a Reggio Calabria hanno lasciato accesi tutti i climatizzatori il 15 agosto, che quindi praticamente sprecavano energia. Guarda, ci sono degli studi del Politecnico di Milano, di Torino, che assegnano all'illuminazione dell'edilizia pubblica una delle fonti principali di usura di quegli edifici. Perché lo spreco dell'illuminazione è notevole praticamente. Allora lì sì, anche qui allora ha senso le nuove lampade a basso consumo, tutto l'intervento su questa logica. Nell'illuminazione stradale, certo che ha senso la lampada a basso consumo, l'uso dei LED, eccetera, eccetera, ma a casa mia, che io ci abbia una luce a basso consumo, o ci abbia una lampada a incandescenza, non è che mi sposterà il problema della qualità energetica del mio immobile. La qualità energetica del mio immobile è il riscaldamento, è in assoluto, e basta, solo lì. Questo quindi per capire che tutti questi suggerimenti vanno mirati sempre alla logica a cui devono essere attribuiti attualmente. Assolutamente, ma in un ambiente pubblico vanno bene. Perché lì non ci sono, si spiega. Come? No, non costa. Però a casa sua sono una Firenze. Cioè se lei a casa sua un appartamento a 100 metri quadri ci mette la luce e si accende nel corridoio, poi farà effetto, io la vengo a trovare, dice guarda che bello, però la ritengo da un punto di vista del genere niente. Ma io gli faccio vedere mia. Non gli faccio vedere mia. No, nel senso, cioè, mentre in un'edilizia pubblica, sì, per dire, nel mio dipartimento, se tutte le luci, soprattutto dei corridoi, si spengessero naturalmente e si accendessero solo quando passano le persone, sono convinto si risparmierebbe un sacco, perché nei corridoi io la mattina arrivo e trovo le luci accese dalla sera prima, perché vi assicuro, ma non perché io sono ganzo, ma se sono andato via ci sto attento io per ultimo e lo spengo, ma altri non fanno altrettanto e la mattina trovo le luci accese se arrivo per prima, e questo purtroppo mi credo. Anche come, guarda, c'è scritto qui. Perché un computer non è niente, ma se lei c'ha a Pisa c'è una sala computer, un centro di calcolo dove c'è 30-40 computer, se me li lascia in stand by, al di là dei rischi, perché gli assicuro che i video in tensione spesso hanno incendiato le case, perché diciamo sono pericolosi. Ma però questo è un grosso problema, perché anche a casa questo lo facciamo, perché quando uno è nel letto e c'è il televisore acceso, poi è un appoggio ad alzarsi d'inverno a spengerlo, lo lascia a stempare. Quelli nuovi sì, ma quelli vecchi sono tutti da stempare. Non è vero. No, ma ora si spengono, i nuovi televisori si spengono proprio col comando, praticamente, si spengono completamente come se lei si alzasse, praticamente. Dica. tempo fa fece un'inchiesta fotografica qui a Pisa, mandai tutte le foto che ritraevano gli edifici illuminati di molto pubblici al comune, e loro adducevano motivazioni di natura di sicurezza. Ma lei conosce che ci siano queste... No, ci sta, no? Sì, certamente, perché magari una barca o qualcosa, uno certamente, se lei, anche io se ci avessi un negozio per dirti lasciando l'illuminato, posso essere certo magari in questo modo che dall'esterno se qualcuno transitasse è visibile, però questo è possibile, però penso appunto con un allarme, secondo me la cosa verrebbe anche meglio, no? Senza necessariamente lasciare le luci accese in un certo senso. Qualcuno fa un investimento una volta per tutte e con un allarme risolve il problema. O comunque in quel caso, se soprattutto si parla di edilizia, come dire, quella scolastica, va bene, lasciamo le luci accese, allora sì, però con un basso consumo riduciamo fortemente il problema. Io sto differenziando, diciamo, semplicemente con le mie chiacchiere, il fatto di non illudersi sempre che quello che leggo qui va bene in assoluto, va bene a casa mia, non serve a niente, in un'edilizia pubblica, sì, in un certo senso. Cioè devo capire, differenziare questi suggerimenti dove adattarli con una certa logica, insomma, per non lasciarmi facilmente attrarre a volte da certi miraggi, perché praticamente si sposa facilmente certe cose senza a volte avere la percezione di quella che è poi l'effettiva ricaduta, che potrebbe essere anche modesta, e allora veramente di fatto ho avuto delle belle intenzioni, ma poi non ho fatto non ho realizzato niente, allora questo non serve, insomma, perché noi abbiamo bisogno di realizzare. Perché il problema dell'energia, lo dico, non si gioca solo sull'effetto serra e sulla logica catastrofistica che può vedere l'effetto serra fra qualche anno fortemente negativo per il nostro paese, perché diciamo, ci sono anche delle scuole contrarie a questo. Ma comunque, in ogni caso, siccome so che la CO2 dà problemi, è giusto che io mi faccia carico in una logica effetto Brundtland, diciamo, di questa logica. Però il problema dell'energia io me lo vivo anche in altro modo, me lo vivo primo su costi e sugli sprechi, e secondo che sono eticamente, diciamo, ridicoli, come eticamente ridicolo lo spreco dell'acqua. Perché devo sprecare l'acqua per il WC quando potrei ragionevolmente con un impianto di recupero dell'acqua piovana utilizzare quelle, anche questa eticamente è una cosa. E secondo, perché noi siamo un paese che ha una grossa difficoltà di approvvigionamento di questa materia prima. Noi che ci vede fortemente esposti verso paesi terzi in maniera nella misura del 60-70% del consumo energetico nazionale. Cioè, questo vuol dire che noi siamo prima di tutto vulnerabili, perché basta la Russia ci paventi, ci taglia le forniture del gas e noi subito, diciamo, non ci riscaldiamo e non produciamo, perché ormai col gas facciamo quasi tutto. Quindi questa cosa va anche, deve essere anche in controtendenza anche su questo. Ma non è che poi altre visioni per ora spostano un problema, perché anche l'energia nucleare, ammesso in un concesso che uno la ritenga valida o meno, ma è sempre un materiale che noi non abbiamo e dobbiamo chiedere. È sempre fossile, quindi a un certo punto, quindi ci sono tanti, il petrolio uguale, quindi noi siamo esposti e quindi l'unica, poi siccome non abbiamo risorse energetiche, e l'unica risorsa che abbiamo è l'efficienza, cioè noi dobbiamo aumentare l'efficienza e risparmiare, quindi vuol dire costruire meglio nell'edilizia e usare impianti migliori praticamente, perché non abbiamo altra strada, questo significa. Poi vado avanti, vede, ecco, allora si arriva agli apparecchi di cogenerazione che diceva anche, diciamo, non ricordo come si chiama, Beniamino. Gli apparecchi di cogenerazione come suggerimento anche per la logica, diciamo, di utilizzo impiantistico, che poi vi mostro e poi se facciamo due parole, anche se praticamente io credo avevo, vabbè, però abbiamo cominciato più tardi perché avevo un'oretta e mezzo, perché poi credo mi debba sostituire qualcuno, Poi vedete, sistemi di temporizzazione sono sistemi banalissimi, la temporizzazione non costa niente, risolvono dei problemi. Oppure installazione, potenza reattiva, guardate voi all'Enel, tante industrie parlano delle penali per un uso improprio dell'energia, che è questa energia reattiva, perché tanti sistemi di macinazione eccetera eccetera consumano tanta energia reattiva, che è uno spreco energetico per l'Enel, e l'Enel c'è un problema, lui la stella cioè, la fai pagare sotto forma di denaro, ma basterebbe dei condensatori per rifasare le linee e praticamente si risolverebbe quel problema, noi non si pagherebbe più le penali e lei sprecherebbe meno energia. Poi generazioni, questo a livello industriale, alla fonte, alla produzione praticamente. No, possiamo fare, montiamo un condensatore e risolviamo il problema. Guardi, questo è un problema che io ho vissuto sulla pelle, appena laureato, prima dell'università, ho lavorato 2 anni in un'industria, poi sono stato richiamato dal professore, ho fatto la tesi e poi sono rientrato in università dopo, ho fatto 2 anni di esperienza industriale, dove questo problema l'ho vissuto appena entrato. Feci un figurone impropriamente per caso, perché elettrotecnia era l'ultimo esame che avevo dato, quindi non aiutavo bene. Arrivo in questa ditta, la prima bolletta che vedo erano diversi soldi penali per l'energia reattiva, perché c'è un parametro che si chiama COSFI, che è lo sfasamento fra la corrente e la tensione, che se è superiore a 0, anzi inferiore a 0,9 si paga l'energia reattiva. E io vedo questo dato e dico perché paga l'energia reattiva inutilmente praticamente. Sicché guardo tutte le bollette precedenti, ho pagato un sacco di soldi che praticamente in un anno avrebbero ammortizzato mettendo dei condensatori per rifasare la linea e sistemando il problema. Questo perché avevano dei macinatori, delle macchine che assorbono tanta energia reattiva. E questa l'Enel la spreca l'energia, però me la fa pagare. Quindi il problema del condensatore si risolve in doppia veste, faccio sprecare un costo di energia all'Enel e io pago la penale. Quindi è un vantaggio di tutti e due. Sai come l'hanno apprezzata? L'hanno apprezzata, ma lì fu un caso, ripeto, perché ripeto, erano troppo fresche per le conoscenze elettrotecniche che mi consentivano di vedere subito questa cosa praticamente. Ma poi ecco generazione domestica di fonti di energia rinnovabile. E qui vedete si parla di raffrescamento solare, perché riscaldamento e raffreddamento dell'ambiente a energia solare. Diciamo, per raffreddare l'ambiente a energia solare bisogna utilizzare quelli che si chiamano gruppi frigoassorbimento. C'è un gruppo frigorifero che anziché introdurre l'energia meccanica di un compressore per il funzionamento, si introduce energia termica. Cioè in sostanza questo frigorifero riesce a funzionare, perché un frigorifero per funzionare e sottrarre calore dall'ambiente, riversarlo fuori, ha bisogno che gli si introduca dell'energia. Normalmente è meccanica, il compressore che lei a casa sente quando ogni tanto in cucina entra in funzione. Ma ci sono dei sistemi che sfruttano dei cambiamenti di fase delle sostanze, cambiamenti di fase, scusi, diversa concentrazione di soluzioni di sostanze tipo soluzioni di acqua con bromuro di litio, soluzioni acqua ammoniaca, eccetera, che introducendo energia termica riescono a realizzare l'effetto frigorifero. Non entro in dettaglio perché è complesso. Questa energia termica può derivare da un cogeneratore che produce questa energia termica e che poi d'estate non saprebbe cosa farsene se non c'è un ciclo industriale a livello di un'abitazione e potrebbe utilizzarla generalmente in un impianto di questo tipo. Oppure col sole produco l'energia termica che mi serve per mandare il gruppo frigo. Però è ovvio che per farlo io bisogna che il carico termico di questo ambiente non sia eccessivo, sennò dovrei tappezzare tutto il tetto di questi collettori solari. Cioè, allora bisogna che lavori parecchio sull'involucro, perché per esempio se questa fosse un'aula scolastica, se io avessi un involucro che il sole delle 2 me lo manifesta alle 7 la sera perché riesce a sfasare questo effetto termico, io alle 7 la sera, per dire, gli studenti non ci sono più, il carico termico complessivo dell'impianto sarebbe notevolmente ridotto e allora potrei utilizzare davvero il sole per farlo. Però bisogna che lavori anche sull'involucro e se no il problema non me lo posso porre. Cioè, per sfruttare bene queste energie rinnovabili in sostanza bisogna avere questa attenzione al sistema, diciamo, che gli sta intorno, perché questo sistema rende concorrenziale e utilizzabile l'energia rinnovabile se gli viene fatto un percorso, diciamo, adeguato sopra. Capito? E allora, diciamo, questi sistemi, naturalmente poi il fotovoltaico possa alimentare direttamente la pompa di calore con l'energia, però anche qui, se devo avere tanto carico, quanto fotovoltaico mi ci vuole? Allora bisogna che riduca carichi, per ridurre i carichi bisogna che i progetti vengano in volto, perché se io qui avessi un castello, avessi un metro di muratura, stia tranquillo che con 3 pannelli fotovoltaici forse mi basterebbero come energia per far freddo lì dentro, perché praticamente un castello il sole d'agosto devo fare sentire, non gli sfasa di 12 ore, gli sfasa di qualche mese. capito? Devo far sentire il dottore, le persone lì, e allora lei è a posto in un certo senso. Ecco perché questa cosa, l'uso delle rinnovabili, quindi non viste come semplice produzione di acqua calda, perché sennò è fortemente riduttivo, avete visto, non serve quasi a niente, ma se invece lo vedo in un'altra ottica, legata a una primaria progettazione virtuale dell'edificio, allora comincia ad avere veramente un senso. Questo è il messaggio che mi premeva sostanzialmente trasmette nel contesto della logica rinnovabile. Allora, qui sulla normativa tralascio praticamente, perché penso non siate interessati, diciamo, alla logica normativa, quindi tralascio tutte le cose. Ecco, sui prodotti, diciamo, tendenzialmente vedete che c'è anche una direttiva importante sui prodotti, la direttiva sui prodotti da costruzione, che è dell'89, anche questa, ha 20 anni, che praticamente individuava sei requisiti essenziali a cui devono essere conformi le opere di costruzione, fra cui, guarda caso, anche il risparmio energetico. Quindi cosa vuol dire questo? Che dovrei utilizzare dei materiali che, oltre a darmi delle garanzie sulla resistenza meccanica, sull'igiene, sulla sicurezza, sulla protezione contro il rumore, hanno anche un requisito fondamentale, che è quello di garantire il risparmio energetico. Allora, quella direttiva 2005-2008 sui materiali ecocompatibili che producono energia, diciamo, rientra in questa logica, ma qui, per dirla in breve, anche se volessi utilizzare un materiale isolante, se vado a riferirmi a questo decreto, cosa trovo di fatto? Che se voglio rispettare questi requisiti, compreso quello praticamente, non posso usare un polistireno, un poliuretano qualsiasi, ma devo riferirmi a delle indicazioni che mi dà questo decreto sulle norme di riferimento. Scusate, ho sbagliato l'allegato 1. Vuol dire, vedete, l'individuazione dei prodotti e relative norme armonizzate di riferimento per gli isolanti termici. Vedete, qui c'ho polistirene, poliuretano, resine praticamente fenoliche, vetro cellulare, lana di legno, eccetera eccetera. Allora, se voglio usare questi materiali, dovrei chiedere che questi materiali, per avere il rispetto di quei requisiti, fossero certificati in base a queste norme uni di riferimento che mi dà questo decreto. Quindi non montare un polistirene qualsiasi, una fibra di legno qualsiasi, ma quella che viene da un produttore che abbia seguito praticamente, diciamo, la produzione, garantendo, diciamo, il rispetto di queste norme. Quindi dovrei avere una dichiarazione di conformità di prodotto che mi attesta che quel prodotto che vado ad utilizzare ha una sua qualità per essere utilizzato. Questo è il problema essenziale, ok? Quindi anche, ripeto, questo per ritornare al discorso dei materiali che, oltre alla nella visione ecocompatibile dettata dalla direttiva 2005-2008, che l'ha corretta, hanno anche quest'altra visione della direttiva 89 sui prodotti da costruzione, che è vecchia di 20 anni, insomma, per cui, insomma, noi le scopriamo sempre in ritardo in Italia delle cose, ma esistono già da tempo. Cioè, questo percorso virtuoso, cioè, voglio dire, sull'energia, poteva essere fatto prima di tutto con la nostra testa, senza aspettare nessuna norma, perché per costruire meglio dovrebbe essere fatto fino ad ora, non è che ci voleva una norma e ci spiegasse, bastava la conoscenza della fisica che avevamo per farlo. Ma a maggior ragione, diciamo, comunque avevamo anche dei riferimenti importanti in questo senso che non abbiamo utilizzato in qualche modo. E che scopriamo adesso praticamente? Allora, visto questo discorso, anche spiegato questo discorso del fabbisogno, io vado rapidamente avanti perché se no vado sulla logica costruttiva. Questo è l'indice cioè questi sono i valori che normativamente devono essere rispettati. Vedete, cioè in una zona climatica come Pisa si oscilla da 25 a 110 a seconda dei gradi giorno, che sono praticamente la misura se una località è più o meno fredda, perché i gradi giorno che vedete partono dal 600 e vado oltre 3000 indicano quando siamo oltre 3000 una zona molto fredda, quando siamo, diciamo, a 600 una zona molto calda, tipo Pantelleria o Lampedusa. Pisa si colloca all'interno di questa fascia 1401-2100, perché i gradi giorno vuol dire, in sostanza, se prendo tutti i giorni del periodo di riscaldamento e moltiplico ogni giorno per la differenza di temperatura interna e esterna superiore diversa, diciamo, da zero, perché ovviamente se qui c'ho 20 e fuori c'ho 20 non ho nessun peso, mi dà la misura, cioè in sostanza se avessi una località che per 150 giorni c'ha un salto termico interno e esterno costante di 10 gradi, che di giorno sarebbe 1500, per dirla in parole povere, chiaro? Quindi più sono alti i gradi giorno, più la località è fredda sostanzialmente. L'altro, e quindi vedete, verso gradi giorno più elevati, la norma mi richiede dei fabbisogni energetici più alti, perché per garantire questi a 2100 vorrebbe dire evidentemente diciamo penalizzare chi costruisce in un certo senso. E anche il rapporto superficie-volume dell'edificio che ora vi vado a mostrare ha una sua qualità. Per cui qui poi ci sono aspetti tecnici che tralascio, perché credo che praticamente... Poi, insomma, quando ho finito, poi se qualcuno gli interessa ritornare su qualcuno di questi aspetti, ci ritorniamo velocemente come domanda. Queste sono le trasmittanze che vi dicevo prima, per cui su una muratura, se con un porto sono a 1, 1 e 1, praticamente guardate i livelli dal 2010 che saranno ragionevolmente richiesti e indicati, perché ora non sono più obbligatori sul nuovo, con la nuova normativa di quest'anno, mentre prima lo era una misura almeno di un 30% più, però sono obbligatori sulla ristrutturazione, cioè se ristrutturo un immobile allora devo garantire queste trasmittanze, allora non è da poco, perché se parto da una parete in porto, se non portarla a 0,4, a 0,36, significa solo col polistirene, ve lo dico, guardate, col polistirene, quindi se ci volete mettere un altro materiale capite, col polistirene portarla a 0,36 significa metterci 7 cm di polistirene, che a livello isolante è sicuramente uno dei migliori, no? Quindi chiaramente se ci metto una lana di vetro, una lana di roccia, un sughero o qualcosa, vuol dire metterci 14 cm, 15 cm di isolante più o meno per arrivare a questi livelli. E questo è il rendimento dell'impianto che vi mostravo nel fabbisogno di energia, che vedete parte da un valore e deve essere rispettato. Questo è il valore limite più basso che posso garantire. Una caldaia da 10 kW mi fa partire questo rendimento dal 78%. Quindi io con l'impianto che progetto, moltiplicando anche i 4 rendimenti che avete visto, devo stare sopra quel valore. Ma per stare sopra il 78% ma sicuro che i 4 rendimenti devono essere tutti almeno 94-95% per se faccio quel prodotto. Il che vuol dire che se uno fosse 0,9 un altro deve essere quasi 1 per bilanciare, perché se non ce la faccio a stare dentro. Questo sempre sul nuovo, naturalmente. O nel caso che faccia delle ristrutturazioni di impianto, diciamo. Poi, questi sono tutti aspetti, diciamo, progettuali che tralascio. Volevo andare a farvi vedere, nella logica di diagnosi, ma anche di progettazione, quali sono i passi, anche qui, su cui dare importanza, per richiamare quei concetti di efficienza energetica che avete visto anche a livello normativo. Cioè, io, in sostanza, me la gioco un po' con queste cose. Cioè, a livello naturalmente progettuale, vi è già stato anche detto, cioè io prima ancora di scegliere con che materiale faccio la parete, già orientando l'involucro, cioè già orientando l'edificio rispetto al nord e al sud, considerando la superficie penetrata che vado a disporre e con la qualità di approvvigionarmi degli apporti solari in maniera corretta, già cambio il fabbisogno energetico di questi immobili. Quindi l'orientamento è già fondamentale. Sul rapporto SSV lo vediamo fra un attimo. Sull'isolamento termico delle pareti opache l'abbiamo detto, è quasi ovvio, ma poi di fatto le devo fare, e se voglio dell'edificio a basso consumo che rispetti quelle trasmittanze o no, se non vado su quei valori praticamente non lo otterrò mai l'edificio a basso consumo, perché per andare in classe A+, come tutti ora vogliono fare, bisogna arrivare su quei livelli delle trasmittanze. Quindi finestre termoisolanti è ovvio. Controllo della ventilazione è ovvio, perché evidentemente la ventilazione è uno spreco energetico e quindi in qualche modo se voglio un edificio a basso consumo devo lavorare anche su quella, soprattutto se lavoro su un edificio condominiale che praticamente c'è un impianto condominiale centralizzato, quindi dove potrei fare un'operazione di recupero di parte dell'energia termica legata alla ventilazione eccetera. I ponti termici sull'edilizia come l'abbiamo costruita fino ad oggi contavano niente, pesavano pochissimo, perché praticamente io creavo i primi diciamo, programmi della vecchia legge 373 del 76 sul controllo della qualità energetica degli immobili, mi chiedevano a me, dice, quanti ci vuole mettere per i ponti termici, l'1-2%, cioè, perché era talmente peso, cioè se un edificio a livello di involucro consuma tanto, cosa volete che conti un angolo in termini di ponte termico di consumo, perché ponte termico vuol dire dove c'è discontinuità del materiale, allora lì c'è un flusso, trovando una resistenza termica più bassa, evidentemente che tende ad accentrarsi, poi fra l'altro tirandosi dietro il vapore e producendo la condensa proprio in quella posizione. Guarda caso tutte le linee dei solari dei soffitti, tutte le linee dove c'ho pilastri, dove c'ho questo tipo di cose. Ma in una logica in cui voglio realizzare un edificio a basso consumo, il ponte termico può diventare rilevante. Il ponte termico lo posso creare io progettando male, ma lo posso creare anche non eseguendo in maniera accurata lavori, come vi mostrerò ora. Perché poi sul cantiere si vanno a vanificare tutto quello che poi su scarta sembra fatto bene. Perché io dico che questa parete è omogenea, c'è una trasmittanza di 0,36, perché è come se fosse veramente tutto omogeneo materiale, ma poi se l'ho realizzata, quindi fra mattone e mattone c'è questo interstizio con un po' di arcina. Oppure, come vi farò vedere, mattone lo metto per dritto perché mi manca un po', non so cosa metto, ci metto il mattone per dritto, allora in quel caso tutto quello che ho scritto su carta è stato completamente vanificato. E allora l'esecuzione dei lavori pesa enormemente sulla logica del ponte termico. Che poi all'altro però poi, se voi dichiarate una casa a basso consumo, io vi posso tranquillamente vanificare, perché quando lo scaldate con una termografia infrarossi ve lo leggo immediatamente il ponte termico e vi dico guarda, cioè te hai dichiarato cosa ti pare, ma ti faccio vedere che qui la situazione non è certamente come quella che mi dichiari facilmente. Poi sfruttamento dell'energia solare, l'abbiamo detto in vari modi, diciamo come può essere legata sia in forma passiva che in forma attiva sugli impianti, ottimizzazione della scelta impiantistica e così via, ma abbiamo, dettagliamo un attimo queste cose. A livello di disposizione anche dei locali, diciamo, può essere già indicativa una figurina di questo genere, perché cioè, vuol dire cominciare a mettere a nord tutti gli spazi inutili della casa, tutti gli spazi di cuscinetto, scale, bottiglie, eccetera. Mentre se voglio usare la forma passiva dell'energia solare, i locali importanti, il soggiorno, la cucina, il pranzo, questi devo mettere a sud, con una opportuna disposizione di superfici finestrate che me ne avvantaggino d'inverno e cerchino di essere schermati nella parte estiva. Fra l'altro sulle schermature solari esterne ora la normativa pone già dei vincoli ben precisi perché si vuole anche ridurre questi consumi. Una camera, teoricamente la migliore posizione dovrebbe essere est, perché se voglio utilizzare l'apporto gratuito in una camera la mattina, bisogna essere est quella camera evidentemente, perché il sole nasce di lì e quindi automaticamente posso avvantaggiarmi in questo modo. Quindi è detto che uno progettando riesce sempre a fare questo, però diciamo, queste sono indicazioni di massima che possono essere indicative in una logica di partenza per la progettazione. L'orientamento, vedete, significa questo, diciamo, classica figurina di tanti manuali, diciamo, quella di utilizzare in maniera appropriata gronde e terrazzi per schermare quando il sole è alto la superficie finestrata, invece per consentire quando il sole è basso l'approvvigionamento di energia gratuita solare, tenendo conto però dei ponti termici indotti da gronde e terrazzi, come vedremo da risolvere, perché se faccio un terrazzo e devo risolvere il ponte termico, se no quello che mi serve è poi lo penalizzo da un'altra parte, lo perdo da un'altra parte. Qui vedete delle soluzioni di schermature che tendono, vedete, a mettere in ombra praticamente la parte solare. Posso piacere, non piacere, io ve lo dico solo come proposizione, diciamo, qui non siamo a fare, sono a fare dell'estetica, perché poi tra l'altro non è quello che compete a me questa cosa, vedete? Qui, cioè, sono degli studi in cui è stata fatta della schermatura che servisse a fare questo, cioè a consentire quando il sole è basso l'ingresso dell'energia solare e a consentire praticamente quando il sole è alto praticamente questa cosa. Fra parentesi, tanti di questi vetri potrebbero essere anche utilizzati, come vedremo, anche in fase col fotovoltaico integrato praticamente nella vetratura per fare anche produzione di energia. Il rapporto S su V, vedete, è fondamentalmente questo, diciamo una cosa abbastanza semplice. S è la superficie disperdente, V è il volume riscaldato. Cioè, vedete questi? Questi qui, a parità di volume, presentano i rapporti S su V diversi, perché se io prendo 8 dadi così, sono 8 case, hanno un rapporto S su V 1 e 2, al di sotto di una volumetria di 1000 metri cubi. Se li metto a schiera questi edifici, comincio a mettere in comune una superficie che per di più potrebbe nemmeno essere disperdente se sono tutti e due riscaldati, Quindi praticamente il rapporto S su V dice il volume è rimasto lo stesso, però la superficie displendente si è ridotta, è 0,85, quindi è già media. Se ne metto in questa maniera compatta, cioè nella logica condominiale, al di là che noi ci guardi avere le casse per conto nostro, però da un punto di vista energetico, se ne metto la logica condominiale, metto a comune anche un'altra superficie e il rapporto S su V si riduce a 0,6. Proprio questo Uwe Rienke, che credo sia un architetto austriaco, perché ha scritto questo libro, indica l'edilizia passiva come un'edilizia dove il rapporto S su V deve essere almeno inferiore a 0,6, altrimenti l'edilizia passiva nemmeno a parlare. Perché? È chiaro che io devo minimizzare il più possibile la superficie displendente a parità di volume, che mi vedrebbe pensare prima di tutto a fare una superficie sferica, perché la sfera nella geometria è quella che a parità di volume presenta la meno superficie displendente, poi viene il cubo e poi viene tutte le altre costruzioni. Ma non solo da questo punto di vista, ma anche che vedete su grosse volumetrie è ancora maggiore questo effetto, perché non è che se il volume aumenta di 10 volte, la superficie displendente non aumenta di 10 volte, se no avrei dovuto trovare 1 e 2 anche qui. Ma se aumenta il volume di 10 volte la superficie aumenta meno, e allora mi trovo già un rapporto favorevole su grosse volumetrie, anche in questa disposizione, ma ancor più se li metto nell'altra. Ma oltre al volume, è anche sulla forma l'effetto, perché questi due edifici hanno lo stesso volume, perché prendete questo pezzettino, è proprio quello che manca qui sostanzialmente. Però c'ho tanta più superficie disperdente in questo caso, e c'ho tanti ponti termici, perché ognuno di queste angolature è un ponte termico. È l'ospedale di Cisanello, Però l'ospedale di Cisanello almeno ci hanno montato la cogenerazione e il gruppo. Però sono le finestre che danno sui. Le finestre hanno messe qui. Ecco che tu guardi il muro, no? La finestra della stanza. No, dobbiamo necessariamente lasciare, è ovvio. Sennò, cioè, dobbiamo lasciare, diciamo, libertà anche progettuale, quindi. Perché non tengo per forza la luce sempre accesa, non c'è luce naturale che entra dentro. Questo è un altro problema. Ora volevo dire un'altra cosa, cioè da quello che dico non vuol dire, non vuol essere un suggerimento, bisogna fare tutto cubi come il progetto, altrimenti siamo nel paese dei puffi per far fuori. È chiaro che bisogna dare anche un po' di libertà che può essere corretta anche nel ponte termico da scelte progettuali. Però è un problema comunque da tenere presente, cioè non sprechiamo inutilmente delle forme che non servono quando, sapendo che queste finalizzano l'aspetto energetico, perché se non servono praticamente cerchiamo di non sprecarle almeno, perché quando io ho il concetto poi lo so, e se poi mi garba fa un'opera anche esteticamente di un certo pregio, le faccio queste forme, ma con una certa attenzione, sapendo, diciamo, la loro ricaduta chiaramente. Guardate, da un altro libro, vedete? Guardate su 8 case, 2 schiere, edifici da 8 unità, guardate il peso, diciamo, che può avere l'aspetto energetico in termini di riduzione dei consumi. Da qui dal 100% passare al 68% una disposizione di questo tipo, insomma. Quindi, insomma, con costi di costruzione ragionevolmente anche ridotti, questo è evidente, insomma. Quindi tralascio il discorso sull'involucro, che praticamente è chiaro, cioè significa isolare, e isolare significa che l'isolante, ben inteso, che lo metta nel mezzo o all'esterno o all'interno, da un punto di vista termico non cambia assolutamente nulla, cioè io riduco in egual maniera il flusso termico, cambia nella distribuzione di temperatura in parete, che può portare qui a dei fenomeni di condensa non recuperabili, mentre se lo metto in esterno, per questo si tende a fare cappotti esterni, può essere più recuperabile, perché anche qualora si formasse la condensa ci può essere una fase di asciugatura estiva che me la ribilancia e praticamente il problema si risolve. Quindi in un certo senso, diciamo, alla disposizione tendenzialmente. In realtà la disposizione migliore sarebbe teoricamente questa, perché questi studi, guardate, che abbiamo fatto noi tanti anni fa e che questi materiali che sono usciti ora sul mercato stanno di fatto supportando, perché è una distribuzione dei materiali non sullo stazionario, ma sul transitorio, cioè quando la temperatura esterna varia e io voglio che l'ambiente risenta il meno possibile di quello che avvenga all'esterno, perché così minimizzo l'intervento degli impianti e risparmio di energia, è quella di avere una sequenza di strati resistivo, capacitivo, resistivo. E allora questo materiale è resistivo, polistirene all'esterno, capacitivo, cemento armato che viene accettato qui dentro, e resistivo di nuovo all'interno praticamente. Perché qui ci mettono dei distanziali che servono a fare lo spessore della parete, mettono tondini di ferro per il cemento armato alloggiato in questi incavi, ci legano quelle verticali e ci gettano in queste casseforma che anziché essere, che consentono il risparmio della manodopera, perché non ho da fare la casseforma in legno e da levarla, ma quando è gettato rimane tutto solidale, anche perché in questi materiali ci sono delle code di rondine qui che il cemento entra dentro e praticamente trattiene il polistirene, evita poi anche il distacco, non c'ho bisogno nemmeno di tassellarlo nel momento in cui faccio il cappotto automaticamente. Quindi questo per dire, il mercato presenta tante soluzioni che non sono, ripeto, tutto quello che vi faccio vedere non può essere la verità, perché se no sarei un profeta, ma non lo sono, e è solo dei suggerimenti fra i tanti che ci sono che possono ragionevolmente risolvere alcune problematiche. Dimmi. Senti, io ho un passato anche sul manuale dell'Ubilico, sembrerebbe che quindi una superficie massiva, tipo un mattone di 40, sia più efficace che non della sovrapposizione di diversi pezzi messi insieme, quindi isolante esterno e l'interno e l'esterno. Non lo credo molto questo, perché ti assicuro che con una parete leggera, una struttura a secco, senza voler far pubblicità a nessuno, ma in quelle fa la Knauf e quindi zona, che poi tranquillamente se ci sono degli intercapelli della distribuzione di stretta applicata raggiunge a livello di comportamento della parete in transitorio, sto parlando degli sfasamenti al pari di una qualsiasi parete pesante d'addirizzo, cioè con un'opportunità, quando abbiamo fatto anche un lavoro in una tesi, una parete da 60 kg al metro quadro era equivalente in termini di sfasamento e di sbonzamento della perturbazione esterna al pari di una parete pesante da 230-240 kg al metro quadro, cioè se si distribuisce bene gli strati si riesce a creare dei comportamenti efficaci anche con le strutture secche, che per far l'altro si rivelano molto efficaci anche per utilizzare materiali più compatibili. Io ho visto la Pianovac qualche giorno fa, una realizzazione di un edificio, hanno cominciato il cantiere martedì, domenica era già tutto costruito praticamente, con struttura metallica, pareti a secco, praticamente hanno realizzato tutto con le impianti già inseriti nelle. Quindi quando gli sono arrivate le strutture, avevano già le impianti inseriti, l'assemblavano semplicemente. In 5 giorni avevano montato la casa. Con delle strutture che garantiscono il legno, con tutta la struttura a legno per quanto riguarda praticamente la parte di copertura, molto legno, molta lana di roccia praticamente affogata in queste strutture. Con delle buone nei comportamenti anche da questo punto di vista, assolutamente. Anche dove? Tra Marchio e praticamente Sant'El Mene, nella zona di Badia. All'interno ha realizzato un edificio che voleva avere questa valenza di entrare in classe A+, basso consumo, con materiali. Una residenza praticamente. Tutta un piano praticamente abbastanza ampio, però fatto con questi principi e con un sottotetto praticamente che si entra con una scala che oggi sul sottotetto tutto in legno praticamente. Con una ditta che è venuta, ha portato materiale, ha assemblato in una almeno 5-6 giorni gli ha mostrato tutto l'edificio. Ci sono tanti in Germania, in provincia di Bolzano, ci sono una marea che montano queste cose. Ma con della buona efficacia anche sul transitorio e sull'evidenza termica, che è il parametro che ci interessa poi andare a aggiungere a quello che stiamo trattando, perché comportamento estivo degli immobili, se vogliamo ridurre quei picchi di energia elettrica più gli impianti, lo dobbiamo fare appunto con una logica di energia termica superiore agli immobili in assoluto. Cassiano 2000 euro metro quadro circa. Sì, costi di questi. No, ma sì, ci sono delle buone cose. Noi andavamo lavorando a suo tempo anche un contratto anni fa con una ditta di Reggio Emilia che faceva prefabbricato il legno, abbiamo anche lì ottimizzato la qualità delle pareti per andare sul basso consumo, certo, sommato, cioè, c'hanno un grosso vantaggio che anche riducono fortemente i tempi, quindi risparmiano lì, perché in tempi relativamente brevi c'è tutto. E poi tutti gli impianti già assemblati, montati, praticamente che sono già dentro. Sì, ci vuole. Vai al tavolino, gli dici voglio le carte lette, il pazzo, tutto questo qua che c'è dentro, portano già assemblate dentro il pannello automaticamente, quindi ce la fa traccia, ce la fa nulla dopo, per dire. E a nord questo lo fanno spesso, da noi il legno viene un po' più difficilmente accettato, ma praticamente sta un po' entrando, perché se si vuole efficacia andare su queste classi, tira, bisogna ricorrere a questo tipo di cose. Il gas vetro, senti, ora lì le dite come la rame, come questo consorzio, poi ti comincia a presentare dei blocchi che ti danno le trasmittanze delle legge. Io ho certificati di laboratorio che lo dimostrano bloccisti, cioè te lo dichiarano, però a me improvvisamente che da un mese all'altro si sono riusciti a ottenere questi effetti, io sono un po' dubbioso, ad essere sincero. È chiaro che è un vantaggio per loro, perché se al costruttore gli evitano di porre l'isolante, di tassellare, eccetera, eccetera, semplicemente ponendo il blocco per prima, ha risolto tanti problemi a tutti, no? Non c'è senso. Per di più, prendendo la logica dell'avviso con la logica dell'inerzia termica, che certi materiali più leggeri magari sembrerebbero non avere, ma che opportunamente disposti in maniera opportuna, con degli intercapelli in aria opportuni, riescono ad avere lo stesso. Se ci sono, cioè devi disporre di strati in maniera da creare le condizioni. Poi c'è una norma per verificare, te lo verifichi con la norma e si è a posto. Nel mio palazzo c'è l'internato, il garage, i partiti, con pareti di legno. Gas beton? Sì. Che il gas è dentro? No. Gas beton è un modo. Non c'è niente di questo, no. Il gas. No. Gas beton, no. Il gas nel senso che è aereato, è poroso. Ah. Sì, gas in senso di aviazione. Che c'è poroso, molto poroso, c'è un cellulare. C'è un esporto. E un blocchetto pesa forse un terzo, ma pesa molto nella stessa colesterolo. Ecco, a livello di ponti termici, per sottolineare che se si vuole poi andare in un'edilizia a basso consumo, il ponte termico comincia ad avere la sua rilevanza, a parte le la muffa che è una manifestazione, ma poi lo spreco energetico, se è anche quella più importante teoricamente, anche se poi quelle ci danno noi è la muffa, praticamente. Ecco, questo è quello che vi dicevo, questo è un cantiere che mi sono fotografato, praticamente per evidenziare. Voi guardate che intestici si sono lasciati vuoti tra l'aderenza e il coso, guardate che spazi tra questi mattoni e quanti mattoni per litro hanno messo in questa ostruzione per colmare vuoti. Poi se si fa, c'è solo l'intorno per far da isolante, c'è fuori, c'è altro praticamente, che sono passanti. Quindi è chiaro che se io parlo di energie rinnovabili, di edilizia a basso consumo, faccio tutto il tempo che fare e poi costruisco lì, è automaticamente. Quindi questo per dire che i passaggi che portano all'edilizia seria sono tanti, compresa l'attenzione sul cantiere, che vede tanti direttori dei lavori assenti, come in questo caso, e quindi le maestranze, che in questo caso erano anche maestranze, le classiche maestranze che ormai abbiamo su cantieri, che non hanno la qualità che avevano poi i vecchi muratori di una volta, naturalmente portano a questi risultati, praticamente. Ma non solo questa, guardate anche la figura dopo, sempre lo stesso immobile, guardate qua su, quanto ponte termico c'è. Perché lì facciamo un pezzo così accordo, hanno preso questi calcinacci dal cantiere, l'hanno riempito e hanno fatto la cosa. Quindi questi sono specchi, oltre che l'acustica, che non sarà assolutamente garantita, perché qui il requisito acustico passivo è perso, ma guardate anche con che distanza per risparmiare mattoni, praticamente non è che c'è almeno la carcina lì, è proprio vuoto, c'è una pistolata così e messa qui, lì è proprio vuoto. Quindi se questa è la conclusione, che poi all'atto pratico si presenta così, perché ora è finito e voi lo vedete così, e nessuno può presagire come è stato costruito sotto, praticamente è chiaramente poi capisce. No, capite, perché come si possa vanificare facilmente tutto quello che poi su carta o nella testa si è pensato, perché in questo modo io praticamente l'ho azzerato. Quindi vi potete fare cosa vi pare, montate, ecco il discorso iniziale, montate pure energie rinnovabili vi pare, ma un edificio così non serve a niente, perché se non ho seguito con attenzione questo percorso, praticamente non serve a nulla. I cassonetti del Senato, che infatti vi volevo far vedere dopo, arriviamo. Qui sono vari ponti termici e i modi di risolverlo, vedete, cercando di arrivare con l'isolante in maniera da separare questa soletta dal resto. così come si fa, e questo vedete la termografia che evidenzia come le isolette, tutti i setti verticali eccetera, siano dei momenti in cui la dispersione praticamente viene fortemente aumentata, diciamo, perché praticamente questo, cioè, dico sempre, come i motori vengono allettati per disperdere più il calore e raffreddarsi, se io a un edificio ci faccio tanti terrazzi, è come se facessi una superficie allettata che evidentemente disperde di più di una superficie normale. Allora, perché questo non succeda, se ci vuole qualche terrazzi, devo separare queste strutture dal resto dell'edificio. Come? Ora vi faccio vedere almeno quattro soluzioni, poi se uno ce n'ha anche dell'altro, praticamente le pone. Praticamente, vedete, questo è il concetto, cioè questo ora è passante, quindi è un ponte termico, diciamo, formidabile per l'edificio automaticamente. Ma ora non lo è più, perché ora ho portato il polistirene in separazione l'isolante qui. Come? Per esempio con questi materiali qui che si cominciano a vedere in fiera, cioè dei materiali che consentono di gettare il terrazzo e il solaio, praticamente però rimanendo questi separati praticamente da questo elemento isolante che praticamente rimane in questa posizione chiaramente. Questo è un modo. Un altro modo praticamente è questo, che è un edificio passivo in Germania. Questo edificio qui, che io ho visitato praticamente, consumava sopra Francoforte testato 1,5 litri di gasolio metro quadro all'anno in Germania. Erano appartamenti di operai da 80 metri quadri circa, operai della base, il nuovo in Ludwigshafen sopra Francoforte. 80 metri quadri per 1,5 litri significano 120 litri di gasolio all'anno per il consumo energetico. A 1 euro il gasolio, fate il conto, questo era il consumo energetico di questi immobili. Naturalmente però vedete che la soletta del terrazzo qui è staccata dall'edificio perché viene sorretta da queste pilastrature verticali, cioè l'hanno staccata completamente. In Germania tanti vani scale vengono posti all'esterno, perché un vano scale, se io ho quel cubo di prima e ci faccio il vano scale non riscaldato, diminuisco il volume e aumento la superficie disperdente, quindi quel rapporto SV lo penalizzo. Se lo faccio fuori questo non succede automaticamente, chiaro? Qui l'ho visto quest'anno a gennaio a Casaclima, praticamente una riadeguamento energetico di un palazzo notevole di edilizia popolare, in cui praticamente qui vedete l'entità delle dispersioni su questa terrazzatura, ci hanno messo della fibra di legno, pannelli di fibra di legno mineralizzato, e qui cercano di mostrarvi come questo si va fortemente a ridurre le dispersioni, diciamo, di quelle componenti di terrazzo di ponte termico che praticamente caratterizzano quell'immobile. Immobile esistente, eh? Questa è un'altra soluzione che quella che studiamo noi con quella impresa di Crea Impianti nel 2004, per 25 anni fa, dove andando a realizzare una grossa struttura edilizia con prefabbricati metallici, però questo ci consentiva di dare continuità al cappotto abbassando costi, perché se io avessi dovuto eseguire con l'isolante tutta la soletta per eliminare il ponte termico sarebbe stato da un punto di vista realizzativo di costo notevole. Invece in questo modo il ponte termico rimane solo questa parte metallica che esce in esterno, molto, molto modesta, ma questo mi consente sia la gronda che il terrazzo di essere sorretto e di ridurre fortemente il ponte termico senza grossi problemi, mantenendo la continuità del cappotto praticamente su tutta la superficie, diciamo, esterna. Su quel tetto lì ci mette pannelli solari sollevati dal tetto, diciamo che in qualche modo aiuta. No, ancora meglio, perché i pannelli integrati nel tetto e il fotovoltaico, benché li finanzino di più, è il momento in cui funzionano peggio, perché sì, il fotovoltaico surriscalda e abbassa l'efficienza, praticamente. Quindi se non è ventilato è integrato nel tetto, però anche qui vedete il legislatore, mi dà più soldi se li metto integrati per un fatto estetico, poi che funzionano peggio non lo sa nemmeno gli interessa praticamente, perché questo è il problema. Perché il fotovoltaico gira e rigira, funziona meglio alle nostre latitudini che in Calabria. Sì. Perché in Calabria con l'irraggiamento maggiore che c'ha, surriscalda e abbassa la sua efficienza. Quindi se, guardate, c'era una ditta della Calabria che li produce, che ci aveva chiesto, ci dobbiamo incontrare una logica di raffreddamento di questi pannelli da mettere in opera sulla panelatura fotovoltaica per raffreddarli con un sistema che noi abbiamo utilizzato in passato, si chiama tubi di calore, per fare questo raffreddamento, per tenere l'efficienza energetica di questi pannelli a un livello elevato, perché se no integrati praticamente hanno una loro difficoltà, diciamo, operativa. E qui vedete altre logiche, diciamo la gronda, dove al solito anche qui la fasciatura vedete dei pilastri praticamente condizionanti per eliminare il ponte termico, perché se no qui il flusso termico tende a passare di qui e qui ci fa condensa automaticamente. E poi vedete un ritorno agli impianti anche, ecco le famose cassonette, quanto disperdono, un radiatore, quando è posizionato male in maniera inopportuna dietro una cosa. Questo radiatore che spreco energetico c'ha, che invece di dar calore all'ambiente lo dà al muro e il muro lo dà fuori. Questo è un tubo di collegamento fra radiatori, sotto traccia, anche lui, guardate, disperde di più addirittura del radiatore in termini termici, perché vedete è ancora più rosso, diciamo, l'effetto. Questo è un edificio, anche questo scolastico praticamente, ma normalmente i radiatori sono tutti sotto finestra dove c'è ridotto lo spessore, e quindi inevitabilmente questo è l'altro spreco energetico, diciamo, grosso che hanno. Così come nell'edilizia scolastica l'altro grosso spreco è quello di evitare dei sistemi di regolazione che impediscono l'apertura delle finestre, perché quando andammo a fare questa termografia fuori era 10 gradi circa, era appena piovuto, e praticamente i ragazzi, perché avevano caldo, perché se io progetto un radiatore per avere 20 gradi, quando fuori c'è 0, se fuori c'è 10, qui il radiatore, se nessuno gli dice di ridurre il carico termico, lui continua a dare lo stesso e la temperatura dell'ambiente sale, e allora apre la finestra. E dalla finestra lo vedete energeticamente spreco. Qui non sembra uscire nulla, ma esce parecchio dalla finestra aperta. Anche da sotto, perché qui ora vi faccio vedere come l'hanno costruito, qui c'è un vespaio aperto praticamente sull'atmosfera, ma soprattutto vedete, era appena piovuto. Questa zona qui, vedete, è ancora umida, è celeste, vedete? E questo è asciugato, perché qui c'è il radiatore dietro. Quindi il radiatore a chi l'ha data la sua energia? Non all'aria dell'ambiente, ma per riscaldare il muro, ma ce n'era bisogno, insomma. Si poteva anche tenere come quell'altro, diciamo, nessuno gliel'aveva chiesto. E praticamente, e poi gli infissi, e naturalmente vedete il solare qui addirittura l'hanno lasciato grezzo, nemmeno attonacato in quel modo lì, e il calore da quel solaio entra qui dentro e poi esce praticamente da queste aperture, chiaramente. Quindi, cioè, qui capite quanto spreco energetico c'è in una realizzazione di questo tipo. E se io, ecco, ritorno lì, scusate se lo ribadisco, ma se volessi risolvere il problema energetico di questa scuola dell'energia rinnovabile, non lo potrei fare, perché in queste condizioni non avrebbe senso. Perché prima devo progettare meglio e poi inserire con criterio l'energia rinnovabile, perché allora veramente ha un senso. Ma in questa condizione è uno spreco, perché ha dei costi energetici così forti, una scuola del genere è pazzesca. Guardate in quest'altra figura l'infisso, e qui c'è un radiatore sempre, il radiatore in alluminio scaldato dal radiatore, che praticamente guardate com'è caldo, a confronto di quest'altro che invece essendo in esterno è freddo, perché questa è la porta d'ingresso. E qui si vede che l'ho scaldato, e l'ha scaldato il radiatore praticamente. La temperatura esterna era 11 gradi e mezzo. No, io avevo gli infissi in alluminio cambiati, perché mi facevano da stufetta d'estate all'interno, che non avevano per il termine. No, ma vede, però, ritorno al discorso che diceva la signora, cioè, a casa sua si lascia tre finestre, lavorano come lei ha detto, però potrebbero non essere significativi, ma questa scuola ha visto tanto alluminio c'era. Lì è significativo, perché qui c'è una marea di alluminio, tutto finestrato, e allora evidentemente, così come vedete qui, i ponti termici, dei cassonetti, che possono essere risolti, perché i cassonetti ormai li costruiscono già preassemblati, con l'isolante già predisposto, che praticamente evitano il ponte termico dei cassonetti. Che vengono già così preassemblati. Vedete, guardate questa edilizia popolare, qui si vede addirittura i travetti dei solai, praticamente in termini termici, diciamo, per capire con quanta anche facilità attraverso una termografia si legge la dispersione di calore di un immobile praticamente. Guardate, questi sono i piloti di questo palazzo, questo sotto, e leggo tutta l'orditura dei solai praticamente con la termografia, perché sono tutti punti termici praticamente. E questo era un edificio che abbiamo progettato praticamente per conto dell'Apes di Pisa, tra l'altro qui Chiara, perché mi piacerà partecipare a questa progettazione, l'unica lui che la conosce, praticamente attraverso una tesi, però poi è andato in cantiere questo edificio, perché con tutte le accortezze che avete visto prima, questa edilizia popolare qui, che al costo di 900, 800, 900 euro al metro quadro, che è l'edilizia popolare, probabilmente, diciamo, sulla carta, se non viene vanificato dopo il discorso, dovrebbe arrivare a consumare praticamente un litro e mezzo di gasolio metro quadro all'anno. Parlo di edilizia popolare, e APS di come quella in Germania. Come quella in Germania, praticamente. Da noi è un po' più facile con le latitudini che abbiamo, però per dire praticamente, diciamo, che le cose si possono fare al costo dell'edilizia popolare. Di quartiere? Dove sarà messo? Non a Pisa, è fuori Pisa. Viene cantierato in un centro della provincia di Pisa. Ma dove? Castelfranco. E niente, poi andiamo sul discorso della massa, però io dovrei chiudere immagine, no? No, vi faccio vedere solo il discorso della cogenerazione, almeno a livello... Dipende anche da quando sono stanchi. No, ma so, se c'è degli interventi dietro di me, bisogna che lasci spazio. Vi faccio solo vedere la logica cogenerativa che mi chiedeva lei, così ve la mostro. Almeno quella, e chiudo con la logica cogenerativa per far vedere cosa, per chi non lo conoscesse, cosa significa. Dunque, vado a cercare più rapidamente, si fa prima. Ve la preparo per me l'assemblea, perché c'è tanti collegamenti, se no, vedete, ognuno di questi è un collegamento per cui vi dovete lasciare 10.000 file aggregati. Ve l'assemblo in un file PDF e vi lascio tutto insieme, casomai glielo mando a due. Allora, le energie rinnovabili praticamente in termini di rinnovabile sono sostanzialmente le pompe di calore geotermiche, su queste, no? Cioè questo è praticamente il famoso accumulo che vi dicevo, cioè dove io posso riversare l'energia che posso prendere in termini geotermici o da una pozza d'acqua o dal terreno in forma orizzontale o da queste sonde verticali, e poi in questo accumulo prelevare in alto l'acqua calda sanitaria, in basso poter prelevare anche l'acqua calda non impianto, ma addirittura qui ci va a confluire anche l'energia rinnovabile prodotta da un solare, che insieme alla pompa di calore è un'altra fonte per riscaldare l'acqua qui dentro, che poi può essere ragionevolmente impiegata o per acqua calda sanitaria o per il pavimento regnante che vedete qua. Però con la differenza che con la pompa di calore rispetto alla calda condensazione posso fare anche il raffrescamento estivo, perché la pompa di calore d'inverno mi prende calore dal terreno e lo dà all'acqua dell'impianto, d'estate mi prende calore dall'ambiente, lo dà al pavimento e poi questo lo riversa nel terreno. Quindi praticamente fa un raffrescamento estivo che potrebbe sostituire in termini di raffrescamento un impianto di climatizzazione tradizionale, diciamo. Il raffreddamento solare, come funziona? L'ho detto, lei non c'era. No, ve lo faccio vedere con la pompa. Cioè, queste pompe di calore normalmente funzionano con l'energia meccanica del compressore. Ci sono quelle a assorbimento che funzionano con l'energia termica prodotta o da un cogeneratore, ma anche da energia solare praticamente. Qui vedete altre logiche di disposizione degli impianti, perché quella orizzontale per la verità viene fatta in questo modo, perché in quell'altro modo se no occupa troppa superficie, invece qui si riduce, anche perché non è che scavo tutta questa terra, scavo solo delle trincee per alloggiarci questi serpentini, quindi cioè scavo così per 1,80 m d'altezza, ci metto il serpentino e finisce lì praticamente, no? E la cogenerazione, ecco il motore del 127, gli dicevo il totem, mi ha chiesto lei, è semplicemente questo il cogeneratore, un motore che l'albero motore, anziché da rotazione alle ruote, con l'autismo ci sono, praticamente ci viene caricato un generatore elettrico, una dinamo, cioè che ruotando praticamente produce energia elettrica. Quindi lei, i pistoni praticamente con il loro movimento danno l'energia meccanica per produrre energia elettrica. E poi i gas caldi, anziché si buttati fuori, scambiano con un impianto ad acqua e praticamente danno calore all'impianto d'acqua. Quindi lei ha produzione contemporanea di energia termica e elettrica con lo stesso motore, aumentandone di molto l'efficienza, perché il rendimento di un motore in una macchina, guardi, è sull'ordine dei 20-25%, come c'è, cioè, brucia 100 per ottenere 25. Se recupera calore con i gas di scale, fa tutta un'operazione, se ti fa almeno qualifica anche meglio la produzione. Questo a livello di piccoli impianti di cogenerazione, perché poi se si va su grossi impianti, anche per la produzione generalizzata di energia elettrica a livello di centrale, si va su impianti turbogas dove, diciamo, c'è la turbina come nelle per fare il lavoro praticamente, no? Quindi siamo su piccola produzione. Dato il raffreddamento del motore, ma c'è anche quello. Certo, questo è chiaro. Fughe, il raffreddamento stesso del motore. Questo è ovvio. Questo è un impianto turbogas, non entro nel dettaglio, ma questi dovrebbero essere pensati per esempio per localizzare la produzione di energia a livello, dice, progetto una zona industriale praticamente in località, ecco. Allora, prima di progettarla sarebbe utile progettare in modo di renderla autonoma energeticamente, perché Peccioli praticamente ha dimostrato anche con i rifiuti che questo può essere tendenzialmente fattibile, può essere pensabile, ma lo potrei fare anche con il gas stesso, sicuramente consumando molta meno energia, perché se io servissi tanti capannoni facendo una programmazione con un impianto che in teleriscaldamento me li scalda e che con la produzione di energia elettrica li dà l'energia elettrica, anche un ente pubblico potrebbe in qualche modo entrare in questa logica e quindi avvantaggiarsi anche non solo del fatto che così si risparmierebbe energia, ma anche del fatto che avrebbe degli ingressi anche che lo finanzierebbero, ripeto, Peccioli ha dato questa dimostrazione perché ha fatto gli investimenti sul territorio a fronte di tante cose che sono sicuramente significative. Ecco, un microcogeneratore, per intenderci, oggi sul mercato si presenta così come una piccola caldaia basale che praticamente viene messa a terra e dove lì dentro c'è praticamente il motore che lei ha visto prima, perché lei vada a ristrutturare un edificio agricolo messo in fondo a navale come mi è capitato di vedere, dove la linea elettrica era in cima a un colle, ma i costi per portare la linea elettrica lì approvvigionato erano talmente rilevanti che me la produco in loco praticamente, e automaticamente mi produco energia elettrica e termica in loco, e questo è praticamente, a parte ora qui c'è lo schema di funzionamento che vi tralascio, questa è Finizia. Tanto ecco, questo vedete dentro, un sistema di questo tipo molto compatto, anche acusticamente diciamo veramente molto ridotto la produzione e il rumore prodotto da un impianto di questo tipo, che può essere generalmente usato e comincia a essere usato in tante applicazioni anche in edilizia centralizzata, insomma dove almeno c'è 4-5 condomini, 4-5 appartamenti, per un appartamento solo non lo consiglierei, ma dove comincia a esserci un certo numero di appartamenti può valere la pena. Poi la logica trigenerativa di cui potreste sentir parlare è un cogeneratore dove il calore posso utilizzarlo anche per fare il freddo, nella logica che si come il raffrescamento solare, perché introduco questo calore all'interno di una macchina al posto dell'energia meccanica e riesco a fare il freddo con questa macchina come un gruppo figo che si chiama, ripeto, assorbimento. La macchina che in grosse dimensioni è questa, forse si vede meglio qui, questo, guarda, questo è come il frigorifero di casa sua. L'evaporatore, il condensatore, cioè l'evaporatore che toglie il calore dove lei c'ha cibi, il condensatore glielo riversa all'ambiente, e qui ci sarebbe il compressore che lei ogni tanto sente entrare in funzione, dove entra energia meccanica. Ecco, lei sostituisca il compressore a tutto questo affare, dove deve poi entrare sia attraverso l'energia solare, ma anche attraverso acqua di raffreddamento o acqua proveniente, no, acqua di raffreddamento, o anche calore proveniente da un cogeneratore, facendo lavorare questo sistema praticamente lei dà l'energia sufficiente al frigorifero per funzionare. Naturalmente questi frigoriferi costano di più dei tradizionali, quindi bisogna trovare la loro economia nell'applicazione, però consentono di utilizzare l'energia solare anche per fare il freddo. Il rigeneratore è praticamente un scambio praticamente fra la soluzione che va verso questa direzione e l'altra che prosegue. Rigeneratore perché mettono in interazione due fasi del circuito, praticamente recuperando calore da una parte e recuperandolo sull'altra in sostanza. E, ecco, l'ultimissima veramente cosa che vi volevo far vedere era provocatoriamente, diciamo l'operazione che praticamente viene condotta, queste sono tutte figure di applicazioni a Friburgo, di ecco qui coperture anche fotovoltaiche che hanno anche un valore estetico come vedete abbastanza molto rilevante, molto bello, e praticamente però la provocazione era questa, no, per dire, no, a volte però quando dando qualità all'edificio, questa è una provocazione nel senso, questo è un villaggio solare ad Amburgo, quindi siamo sul mare del nord, con 3.400 metri quadri di tetti solari, vedete questi sono tutti i tetti solari che praticamente da noi ci farebbero mai fare le sovrintendenze chiaramente, qui c'è un serbatoio di cemento armato interrato di 4.500 metri cubi d'acqua, che praticamente guardate nella figura successiva, lo vedete qui in basso, questo è il villaggio solare e qui c'è il serbatoio. Cioè tutta questa energia captata dal sole viene riversata nel serbatoio che costituisce accumulo per poter poi essere utilizzata a livello di impianti di riscaldamento e di docce, naturalmente integrato da un impianto qualora non ci sia energia sufficiente. Questo è un classico caso di applicazione di energia rinnovabile, però questa volta è sostanziale, non è per fare l'acqua calda sanitaria. La stessa cosa, tanto per dirvi più in piccolo, questa ditta che produce collettori solari termici, diciamo, e anche vende commercio fotovoltaico, che vedete, io ho visitato, c'è una fase equivalente, vedete questo tubo qui, è pieno d'acqua, sono 83 metri cubi d'acqua praticamente circa, 85, che vedete, alla stessa stregua, io riverso l'energia qui dentro, a novembre quando ci sono andato, in questo tubo, si misurava 29 gradi qui e 79 quassù per effetto dell'accumulo. Cioè, poi, anche qui, la stessa cosa, io l'ho vista nella stessa cittadina, per un impianto di lavaggio delle auto. Cioè, avevano sei conservatori di questo genere con collettori solari termici, lo scaldavano e lavavano le macchine con l'acqua calda, praticamente. Un lavaggio come i tanti che abbiamo noi sulle strade, praticamente. Allora, vedete che in questo caso poi prendendo pure questa ditta, utilizzando un impianto che pure utilizza e prende calore dal terreno con uno scambiatore e avendo un piccolo impianto di microcogenerazione e integrazione, si scalda autonomamente praticamente servendosi, diciamo, di questa tecnologia. Ecco, per chiudere anche dire, è vero quello che ho detto, cioè l'edificio e la scelta impiantistica, diciamo, sono fondamentali per capire la qualità con cui poi posso approvvigionarmi di energia rinnovabile. Però qui abbiamo pure visto delle provocazioni forti di utilizzo di energia rinnovabile da utilizzare in termini impiantistici per riscaldare gli immobili e non sono, diciamo, onestamente da sottovalutare, almeno una riflessione la meriterebbe. Bene, vi ringrazio perché penso di aver rubato abbastanza tempo a quelli che mi vengono dopo. Tutto quello che si può dare ci dia, per favore. E ce la costruì la casa. Anche le nostre luci. Anche lo strisci, no? Vorrei fare la casa, la piazza.